vabbè, ti saluto, va, mo cambio canale, ma da sette zapping che dicono meno cazzate di te, va. Mi sento zapping, certo. Ciao, Grucia. La zanzara. Tutto il resto è troia. Gioia. Luciani, Luciani, stai di sacco di cazzate. Che tempi. Sono tornati fuori con la soluzione di Berlusconi nella vicenda Ruby. Sono tornati fuori Ferrara e Travaglio. Beh, stupendo, eh? Ferrara in grandissima forma, devo dire anche molto nervoso Giulianone, perché non poteva sopportare, che cosa, caro Parenzo? Non poteva sopportare che Travaglio, nonostante l'evidente sconfitta, continuasse ancora a ripetere: no, però in realtà tutto questo non cancella i reati precedenti di Berlusconi, che ovviamente è vero. Vabbè, ma questo è scontato, no? Devo dire che questa soluzione, questo è un mio pensiero, riabilita decisamente il cavaliere, perché era forse la cosa più scottante, ma questo non c'entra nulla per il momento. Perché era così nervoso Giulianone? Era nervoso soprattutto perché Travaglio continuava a dire una cosa, cioè continuava a dire: hanno modificato la legge PD e Forza Italia per salvare Berlusconi, cosa che si è rivelata, diciamolo chiaramente, una balla pazzesca, perché lo hanno detto tutti i giuristi, anche non berlusconiani, che non c'entra niente il verdetto con il cambiamento della legge. Comunque, grande duello, sentiamo. Travaglio che ha fatto? Il solito schemino, e vabbè, d'accordo, è comprensibile, dice il PD e Forza Italia sono la stessa cosa. Si sono fatti la legge Severino per proteggere Penati e Berlusconi. Naturalmente hanno votato la stessa legge. La Severino è la stessa. È un dato di cronaca. Sta zitto. La Severino. La Severino. Sta zitto, se no ti puliscono lo sgabello. La Severino. Ti puliscono lo sgabello. Non capisci niente. La Severino è stata. Sei un somaro. Nove colonne su quel giornalaccio. Su quel mattinale che si chiama Il Fatto Quotidiano per alcune settimane, perché la legge Severino ha consentito di buttare fuori Berlusconi dal Senato. Allora, questo ridicolo mosciume. Ma se l'è votata Berlusconi. Per dire: ma no, legge. Ma io il caso Ruby. Ma io il caso Ruby. Dai, buono, se no ti spazzolo lo non sgabello. Dove hai messo il tuo culetto non nella trasmissione nulla. Con Berlusconi? Sei l'uomo più sputtanato dopo Berlusconi in Italia. Quindi è chiaro. Allora, fammi finire. Mentana, adesso mi fai finire. Sei un somaro. Non posso sopportare quello lì con quei capelli Giuliano, sul collo come li porta. Giuliano, vi prego. No, io non voglio sapere con chi scopa Travaglio della questione. E non voglio che lui si occupi di chi scopava con Berlusconi. Non va bene? Capisci nulla. E poi un'altra cosa più importante. Mettiti il rossetto. Scusa, Giuliano. Che poi tutto questo nessuno ha notato, ma le cose più interessanti sono due. Primo, che veramente non è così irrilevante capire con chi scopa Travaglio, cioè potrebbe essere pure una cosa di interesse pubblico, no? Beh, sì, potrebbe essere una cosa di interesse pubblico, come no, certo. Ma chi se ne frega? Potrebbe essere una cosa di interesse pubblico, un uomo pubblico, perché è un uomo pubblico. Ma guarda che tutta questa... Aspetta, stai fermo, non interrompere la poesia ogni volta. Allora... Potrebbe essere di interesse questa cosa qua. E poi c'è una vicenda eccezionale, che sono i capelli. Come li porta sti capelli? Dice attaccati al collo. Beh, non capisco questa cosa qua. Ancora. puoi parlare della questione? No, ragazzi, vi prego, tutte e due, vi prego. Scusate, stiamo parlando adesso onestamente. La mia scommessa era riuscire a far parlare. Scusa, Giuliano, mi permetti, non ti sento. Ascolta un attimo quello che ti dico. Non ti permetto. Ma come non ti permetti? Te lo permetto, ma sono il padrone di casa, ti prego. Allora, quello che ti voglio dire, se che tu lo ascolti o no, è che sto perdendo la scommessa di farvi parlare civilmente di un argomento che è superiore a voi e che riguarda invece i telespettatori e questo paese, cioè Berlusconi, la giustizia, qual è la questione della Procura di Milano, quali sono i problemi per Brutti Liberati e la Boccassini, cosa succede con Berlusconi adesso in politica. Invece di parlare di chi ce l'ha più lungo tra te e Travaglio, non me ne importa nulla. Metti a tacere Travaglio mentre parlo io, punto. Ma sei oltretutto hai il ritardo che sei a casa. Hai capito? Va bene. Metti allora facciamo una bella cosa di igiene. Abbassiamo l'audio di Ferrara un attimo, abbassiamo l'audio di Ferrara, grazie, molto gentile. Così lo vediamo che dice, almeno le parolacce non le sentiamo. Ti vedo, ecco. Oh, bravo. Ferrara scatenato anche questa mattina Omnibus, sia Omnibus ad Agorà. Mi fate finire di parlare! La cronologia è questa, no. Quindi se da Milano è serio quando dice di volersi fare l'autocritica, adesso mi fate finire! Perché non ho parlato un cazzo stamattina, allora mi fate finire per favore. Non c'è bisogno di parlare. Mi fate finire, se no me ne vado! Non sto a giochetto che, non, che parla solo chi dice puttanate. Silenzio! Vabbè, tu nessuno qua dice questa è la verità delle cose che si può accertare, calendario alla mano, chiaro? Oh! Sui regali, Ferrara dice che Berlusconi è un regalomane. La questione del privato è interessante pure quella. Ora, Berlusconi è noto nel mondo per essere un regalomane. Che cos'è un regalomane? È uno che ama talmente piacere, che si compiace così narcisisticamente, ma è un diritto privato, della propria ricchezza, che se viene Tony Blair ospite suo in Sardegna gli fa dei regali, se viene Putin gli fa dei regali, fa regali a tutti. Oh, però ho sentito anche delle stronzate, non ne diciamo tante per carità, Per esempio, Lorella Zanardo, te la ricordi, Parenzo, quella del corpo delle donne, come no? Lorella Zanardo, che dice, insomma, dalla vicenda di Arcore delle donne, che non viene cancellata dalla sentenza, cioè il comportamento immorale di Berlusconi, si è passati direttamente alla ragazzina dei Parioli. Ora, amica mia Zanardo, ma cosa diavolo c'entrano le baby squillo con Berlusconi e quello che succedeva ad Arcore? Non c'entra nulla, zero. Certo è, viene detto che il reato di prostituzione eventualmente non costituisce reato perché non era nota l'età della giovine. È vero? Non è vero? Probabilmente qualcuno sapeva, altri no. Però che cosa Mentana fa rilevare questo? Non è molto diverso, o comunque questo è nella scia o ha dato inizio a quello che è accaduto pochi mesi fa con le ragazzine, bambine quasi, che si prostituivano ai Parioli. Parte che dobbiamo ancora avere le motivazioni, Comunque. A proposito di Israele e Palestina, caro Parenzo, c'è un tizio che si chiama Franco Maria Fontana, che si presenta come matematico e filosofo, dovresti controllare, non so se sia professore o no, ma poco conta. Franco? Maria Fontana, un signore che si chiama Franco Maria Fontana, il quale scrivo, sentito solo oggi un miserevole David Parenzo, omofobo e razzista, che attacca, omofobo poi, pure omofobo ti ha dato, e razzista. Io omofobo. Aspetta, che attacca Vattimo perché vecchio, frocio e servitore del Terzo Reich. Ha capito tutto sto Fontana, oh? Ma è ubriaco. Magari, insomma, è altro che ubriaco, cioè di più. Oltre l'ubriachezza siamo. Oltre. Abbiamo già un ospite pronto. Già un ospite pronto lì. Pronto anch'io lì. Io volendo ne ho uno. Sto sbarcando a Nettuno in questo momento. No, ma perché io? Ma perché mi devi dire queste cose che divento scemo? Divento pazzo, divento. Non mi dire nulla. È meglio che non mi dicevi nulla. Nulla. Non mi devi dire niente. Dove sei? Non mi interessa dove sei. Un ospite molto. Non mi interessa dove sei. Non mi interessa. Non me lo dire. Non me lo dire nemmeno. Non lo voglio sapere. Ci sono tante cose da dire, ma è con noi. Ritorna alla Zanzara Antonio Di Pietro. Buonasera, il contadino. Ormai contadino, come sta? Che vuoi fare? Zappiamo la terra. Ma che sta? Ma sta zappando anche oggi? Sta zappando Di Pietro? No, non ancora si comincia. Questo è il momento di pulire la terra per poi zappare. Ce n'è da pulire qua in Italia. Sì, vabbè, lei sta pulendo sul serio oppure è una metafora? Sta pulendo, lo fa veramente il contadino. Perché lei ha detto, ha scritto sul blog di Grillo: sono stato magistrato, già magistrato, ora contadino. Hai detto niente, finalmente faccio un mestierino bello, bello sano e che nessuno si arrabbia. Senta, ma ma no, se nessuno si arrabbia. Sì, buongiorno, buonasera a tutti. Ma per me non mi fa salutare nessuno, voglio. Ma sì, certo che facciamo salutare. Come no? Ma non sta sul trattore, no, allora? No, no, no, il trattore no, perché stamattina mi si è rotta la cinghia, mannaggia la miseria. Ah, si è rotta la cinghia del trattore? Beh, sì. Quelli sono problemi. Sono problemi veri, non finti. Certo. Ma che roba c'ha lei nel suo campo lì a... E poi la cosa più bella, la prima cosa che mi hanno chiesto stamattina, ma con fattura o senza? Mannaggia la miseria, dico. Ah, subito? Ma proprio a me me lo viene a chiedere. Ma scusi, ma non gli ha mandato subito un finanziere a questi qua? Subito doveva denunziare Di Pietro. Ma sai, in questo tempo il finanziere ci guadagna qualcosa. No, come ci guadagna qualcosa? Ma scusi Di Pietro, lei doveva fare, lei da ex magistrato, ex poliziotto, doveva fare una roba, a parte che si rimane sempre poliziotto e si rimane sempre magistrato, doveva chiamare subito il finanziere e denunciare questo signore che le ha chiesto di pagare in nero. Alla fine così è stato, o no? Dovevo chiedergli prima di che paese era il finanziere, napoletano, milanese, romano. Perché? Che cambiava? Capisce a me. Capisco, che significa? Cioè... chiedelo lì. No, ma che vuol dire? Cioè, se chiamava uno di via Napoli, che succedeva un finanziere? Di Montenero in gestione i finanzieri. Ah, ma non ho capito. Qual è la differenza? Adesso non può mandare messaggi così. Di Pietro, che voleva dire? Cioè, è meglio non chiamarla la finanza in alcuni casi? La finanza fa egregiamente il proprio lavoro. Qualche volta, come avete visto, sia i tempi di Mani Pulite, sia adesso, sì. Qualche volta c'è qualcuno che invece fa il proprio lavoro, ci si ingrassa sopra. Ma questo non va sfiduciato tutta l'altra, no. Perché sarebbe una grande ignominia. Per carità. Comunque lei ha preferito non chiamare la Guardia di Finanza davanti a questo, no. Davanti a una cosa del genere. No, ho preferito dire fa fattura. Fa fattura, ma sei pure arrabbiato un po', no? Si è messo a scherzare, a ridere. No, ho cambiato, come si dice, fornitore. Ah, ha cambiato fornitore. Ma non è venuta subito la cosa? Io, a me verrebbe subito la cosa. Ma non ho capito se ho cambiato prima io fornitore o se lui ha detto che non c'aveva il pezzo di ricambio, capito? Perché poi senta, di cose serie, di che mi avete chiamato? Questa è serie. Ma come noi che l'abbiamo chiamata a fare? Qui Berlusconi c'ha no una vita, 100 vite, no 7 vite come i gatti, ce n'ha 500 di piedi. Beato lui, ma è benedetto il Signore. Oh, una persona che ha 70 anni, quando è che ce n'ha? Di più, 76. 76. Quanto? 76. Vabbè, allora sta bene. È fidanzato, vissero felici e contenti, beato lui. Beh, con una molto giovane, tra l'altro, eh. Con una molto giovane. Beato lui, voglio dire, chissà contenta cosa. Beh, chissà contenta cosa, pure lei le donne sono sempre piaciute, non è che. Che c'è? Chi è? Aspetti Di Pietro, che qui c'è Parenzo che fa casino ogni volta. Chi è? Cusciani, ciao Barbara. Siamo qui dalla discavo perché purtroppo Parenzo ha avuto dei problemi. Sì. E non sta bene. Andata al bagno, che ha fatto? Saluti di Pietro, signora D'Urso, saluti di Pietro. Salutilo. Saluti Antonio. Andata al bagno, Parenzo, che ha fatto? No. No, si è addormentato perché ha un'età e quindi ha quelle cose che di pomeriggio perde conoscenza, capito? E allora capito, mi ha dato il telefonino. T'ha dato il telefonino, capito, l'ho visto anche con la. Chiamate mezzo a finire questa, Cruciani, le devo ripassare il telefonino a Parenzo perché siccome non si sente niente vorrei evitare di dire o di ascoltare delle cose che non sono consone. No, assolutamente. Ma come mai, no? Scusi, signora D'Urso, come mai ha fatto fare quella foto col suo settimanale o mensile, quello che è? Ma visto quanto è bellino. Ma guardi Parenzo col B-Magazine. Ma il B-Magazine... L'ha messo tutto. Sì, però il B-Magazine... L'ha messo tutto. Ha preso anche gli sticker, ha messo tutti quanti le bocche sul telefonino. Cruciani, mi creda. Non mi creda. Vero? Vabbè, comunque sapete una cosa, aspetta signora D'Urso, aspetta una cosa. La cosa più incredibile del mondo è che l'unica persona da cui Renzi si è presentato fisicamente a Mediaset per tutta questa stagione è stata la signora D'Urso. cioè questa, diciamo la verità, c'è l'unica persona da cui si è presa, poi ha fatto delle varie interviste, no, a Mediaset, a vari programmi eccetera, però l'unica persona da cui è andato fisicamente, e sono venuti tutti a un certo punto là con Falonieri, tu, questa è la prova della grande potenza, la grande potenza di Ciaduzzo. Mi dica un po', lei è rimasta esaltata da questa, sì, sono una donna potente, quando ha visto Renzi e tutte le persone che si affollano, l'unica persona che ha ricevuto Renzi, me lo dica. Sono una donna, non sono una santa, no, sono molto contenta anche perché lui è stato contento, quindi siamo stati contenti tutti, come capito? Una bella favola che finisce bene, capito? È stata un'intervista piacevole, caro Cruciani, succede. Ma quanto diamo a Renzi come governante di voto? Non sento più bene, pronto. Sì, vabbè, d'accordo, vabbè. Cruciani, lei non è che mi può avere dentro la sua radio. Ma così, vabbè, d'accordo, ti inviterò. No, vabbè, ma vabbè, hai ragione. Anzi, ha ragione, diamoci. Non è che uno chiede, pronto, signora D'Urso, potrebbe intervenire. Vabbè, ok, l'ha preso lei il telefono, mica l'ho preso io. Cioè, l'ha preso lei il telefono, io non l'ho preso. Arrivederci a tutta, buona giornata, viva la zanzara, vi amo. Ancora stavano alle code a Busalla, Monteduva, all'altra signa, è pazzesco. Sono sempre uguali i bollettini stradali, ma perché non se ne stanno tutti a casa loro che sta così bene? 84% proprietari di case stiano a casa loro gli italiani, no? Si svegliano. No, beh, a casa loro no, però se no non ascoltano la zanzara. Ecco, noi Antonio Di Pietro, il contadino Di Pietro. Ma scusi, su questa soluzione di Berlusconi, lei ha delle perplessità, cioè sta storia che dicono del cambiamento della legge, eccetera, è stata poi smentita, Di Pietro, adesso senza andare troppo nel tecnico, mi sembra veramente una puttanata questa cosa qua, o no? Una puttanata quale? Che cosa? Cioè, quelli che dicono è cambiata la legge, c'è, cioè Forza Italia e PD hanno cambiato la legge. Che la legge è cambiata è vera, ma siccome non abbiamo letto la motivazione, non sappiamo per quale ragione l'hanno assolto, per cui rispettiamo la sentenza d'appello, sì. per commentarla, uno che commenta senza aver letto la sentenza, vabbè. Allora lo dica al suo amico Travaglio pure, perché pure Travaglio, lui è sicuro per esempio che il cambiamento della legge Severino, cioè la Severino avendo cambiato la legge ha contribuito alla soluzione. Sicuramente la legge è stata cambiata, sicuramente la legge così come cambiata non poteva essere applicato una concussione per induzione, ma se lui è stato assolto, non è vero, perché concussione? Perché non c'è stata induzione, se lui è stato assolto proprio perché non ha fatto nemmeno l'induzione, ma semplicemente gli ha detto, guaglio, vedi un po' che cosa puoi fare perché è una brava persona, perché a volte non c'è manco l'induzione, quindi le motivazioni io le aspetterei quando vengono pubblicate. Vabbè. E poi le commento. Senta, ma a proposito di questo, ma qualcuno invoca la grazia? Ma lo sai che l'altro ieri invece tutti avete detto che Berlusconi l'ha persa la causa, ne ha perso due con me l'altro ieri. Lo so, adesso lei potrebbe... Sì. Capisci a me? No, aspetta, lui aveva detto... Come aveva detto che non c'era una laurea, mo voglio vedere come si dipende. Sono cazzi suoi, no? What? I don't know. No, nel senso, mo sono cazzi di Berlusconi, cioè nel senso che lei lo porta in tribunale per questa cosa o no? Già ci sta in tribunale, ma ormai, sai, a questo punto voglio dire, avere ragione il giorno dopo non serve a niente, hai ragione dei fessi. E dunque che succede? Il problema mio è che io mi sono portato a casa un'infamia, me la sono tenuta ormai, che poco. Vabbè, ma dai, questo adesso perché uno in più, uno in meno, voglio dire, qui la cosa più importante è che oggi è piovuto un po' e quindi ha bagnato la vigna. Lo so, infatti questi sono i problemi veri, ma io sono contento che lei abbia virato verso l'agricoltura, Di Pietro, perché è una cosa seria. No, ma io non sono contento perché lei ha smesso di fare politica praticamente. No, ma chi l'ha detto che ho smesso di fare politica? Ma praticamente ha smesso. Su. Avanti, tu. Non ti porta avanti. Mi piacerebbe. No, a me no. No. Ricordati che il contadino fa una cosa buona, semina. No, ma tu chi è che chiama la zanzara 18:51? Sgarbi chiama Vittorio Sgarbi. Vediamo che vuole dire Vittorio, Avanti Vittorio Sgarbi a Di Pietro. Vediamo un po' che vuole dire. Ma è Vittorio vero o Vittorio? Aspetta, Vittorio. Pronto. Che c'è? Che vuoi dire a Di Pietro che non ti sente? Che vuoi dire? No, volevo dire che mi è molto simpatico, ma non ha mai fatto politica lui. La parola politica è troppo alta perché uno possa attribuirsi. La politica vuol dire aver avuto un progetto e un'idea. La sua idea è stata quella di distruggere, come ha distrutto la Prima Repubblica, attraverso un'inchiesta che ha generato Di Pietro, cioè che ha generato Berlusconi. Cioè lui ha incubato la Prima Repubblica e usato un parto anale, ha fatto uscire Berlusconi. Cioè lui è il padre di Berlusconi. Ottimo. Incubandosi la Prima Repubblica è nato questo mostriciattolo, cioè la sintesi di quello che la Prima Repubblica era, non era più. Finita. E adesso che deve fare? Ritirarsi? Fa bene a fare il contadino, Vittorio? No, dico, ma non è politica questa, è un'azione sovversiva, straordinaria. Un sovversivo, definisce Di Pietro un sovversivo. È il padre di Berlusconi. Vabbè. Poi alla questione dell'induzione, sì, è evidente che quando uno telefona si chiama raccomandazione, favore. Se a me chiama un signor Bagnasco e mi chiede di dire, sì, qualcosa, di fare una, la faccio, perché è una persona autorevole. Berlusconi non era, vabbè, presidente del Consiglio, era Berlusconi presidente del Milan. Vabbè, ma quella è un'altra cosa, perché tu hai detto... No, voglio dire, non puoi fare che la carica ultima... Però adesso stiamo parlando di un'altra cosa, adesso fammi riflettere un attimo con Di Pietro, non ti posso sentire su questo, ti chiamo dopo. Allora, Di Pietro, ha sentito che ha detto Sgarbi che lei è stato praticamente un sovversivo, è lei che ha creato Berlusconi. Voglio dire, se io ho creato Berlusconi, è stata un'azione sovversiva, Berlusconi è un sovversivo per lui, secondo Sgarbi. Ne prendo atto, ma appena le capita di incontrare a Berlusconi gli dirò di darmi copyright, insomma, voglio dire. Se senta, ma la Boccassini, secondo lei, questo, secondo lei... Mo vado a incassare a questo punto. Ma secondo lei la Boccassini che dovrebbe fare a questo punto? Dovrebbe, sì, alla Boccassini, dopo una sconfitta del genere, che dovrebbe fare? Lei lascerebbe al posto suo? Lei lascerebbe al posto suo? Ma perché dovrebbe lasciare? Lei ha fatto la pubblica accusa, poi c'è stato un GIP, un GUP, un tribunale di primo grado, un secondo grado, la pensa diversamente, benedetto signore, mi auguro che sia questa la verità, ma questa è l'idea che il pubblico ministero ogni volta che non gli danno ragione... vuol dire che è colpa sua, è un'idea che non stanno in piedi. Vabbè, questo però era un processo importante, non è un processo qualunque, su. Di Pietro, non era un processo qualunque questo qua, era un processo molto importante, era un processo. Sì, è molto importante, ne ho fatto pure io di importante, hanno detto che era un processo del cavolo, però poi la storia dà ragione, che ha ragione. Parenzo, ci sei o no? Non ho capito. Voglio dire, ma senti, cosa c'ha? Mal di pancia? Cosa c'ha? Ma non lo so, dice la D'Urso che c'ha mal di pancia. Mal di pancia, no, ma è perché è stato un viaggio... il viaggio in nave, ha capito, in vacanza, in nave, signorino. Già l'invidio a Parenzo, perché voglio dire, a me, giustamente, Barbara D'Urso, essendo io soltanto un sovversivo, non mi ha mai invitato, ma voglio dire, lui che ci sta lì, ti facesse sapere perché ci sta. Mo mi sono buttato avanti, hai capito? Vabbè, però non la tua casa a causa, Antonio. No, ma io volevo dire semplicemente questo, che potrà sembrare una banalità, ma è normale. C'è il processo, serve per accertare, vabbè, una verità giudiziaria. Vabbè, allora forza. Allora, non abbiamo bisogno di ragionamenti. Ma allora, non può adesso forza. Sparare e fare gli ultras per una sentenza. In primo grado è stato condannato. Ora è stato. Vabbè, hai una domanda da fare o no? Formula piena. No, ma di non hai domanda da voglio fare. Abbracciare fortissimo. E perché lo devi abbracciare? Che ha fatto? Scusa. No, abbraccio perché è tornato a fare, perché molto umilmente ha detto basta, mi ritiro, me ne fotto e me ne vado. E in pochi lo fanno. Scusi, ma perché non si scioglie l'Italia dei Valori e confluita direttamente con i 5 Stelle? Che c'è stato a fare ormai, Di Pietro? Lei scrive veramente la nuova Italia dei Valori sta cercando di mettersi insieme e costruire un'alleanza col PD. Adesso io faccio relata refa, non vi incazzate. Ma ho capito, però lei scrive sul blog di Grillo, eccetera, finiamola con sta cosa. No? Veramente io scrivo anche sul mio di blog, poi sì, che Grillo, vabbè, d'accordo. Lo riprende. Allora, chi ne vuole sapere di più? AntonioDiPietro.it, hai visto come ti ho fregato la pubblicità? Senti Antonio, ma io voglio capire una cosa, ma chi è che la signora Barbara D'Urso, che io l'ammiro e la stimo sempre. Se è la vera, non vorrei che sia. Allora, parlate insieme, passa la D'Urso a Di Pietro. Allora, siccome io la stimo e la rispetto, no, solamente così. La Turchia è andata via, è scesa dall'aliscafo con me, eravamo insieme a Ponte d'Autore, è scesa, sì, dall'aliscafo e io sto andando. Mamma mia, che marchette, cioè, è specializzato nelle marchette, Parenzo, non c'è niente ma da fare. Ma ci vieni anche tu. Se non fa, sì, ma io non lo dico, questo è diverso, ma però. Anche, non lo dico perché non faccio marchette come. Non faccio marchette, io, è diversa la cosa. Ma di te stesso, di quello che fai. Ma no, perché non fa. È diversa la cosa, è molto diverso. Ponte d'Autore, grande rassegna. Va bene, ho capito, non ci rompere i coglioni adesso. No, dicevo a Parenzo. Dicevo ma capisci, da noi in campagna non si usa così. Ma come non si usa? Peggio. Senta, ma Di Matteo, che ha detto quelle cose su Renzi, non ha esagerato? Scusi, ma non si può dire un magistrato che è nel piano delle sue funzioni, che ha detto che fa gli accordi col condannato? Voglio dire... che Berlusconi e Renzi, lo dice Renzi che sta facendo l'accordo, poi ognuno può condividere o non condividere, io non lo condivido, ma che stanno facendo l'accordo è vero, lo dice Renzi. Cioè che cos'è che non condivide, quelle frasi di Matteo? No, io non condivido il fatto che ci sia un accordo fra due coalizioni. Vabbè, d'accordo. Però non lo condivido. Un magistrato come Di Matteo, così, che sta facendo un'inchiesta così importante durante una commemorazione, che attacca il Presidente del Consiglio e attacca anche il Presidente della Repubblica, non è fuori dalle sue funzioni? Personalmente dico, evviva chi ha il coraggio di esprimere le proprie idee. Cioè, evviva Di Matteo. Evviva chi ha il coraggio di esprimere le proprie idee, che si chiami Di Matteo. Come vabbè, si ma in questo caso è Di Matteo che ha parlato, però. Non è io sono ben felice che ne abbia parlato, perché io rispetto chi ha il coraggio delle proprie idee. poi peraltro le condivido pure, quindi penso un po'. No, d'accordo, vabbè, ma infatti per carità, per me ha un po' esagerato, cioè uno come Di Matteo si presenta come una specie di nuovo Ingroia e sappiamo com'è finita. Voglio dire, sapete che adesso la colpa di questa idea che secondo voi state inculcando all'opinione pubblica, la colpa di quello che è successo è dei magistrati che scoprono i reati, non dei ladri. Ma no, ma non è il punto. È una trovata, ormai ha fatto il suo tempo. Ma no, Di Pietro, io non sto dicendo... Lasciamolo al mio amico Sgarbi pensare queste cose, perché qua è da parlare che noi siamo sovversivi, quindi per amore di Dio. È una sua idea, la pensa così, però facciamo in modo che trasmissione serie come la vostra, tra il faceto e il serio, faccio capire ai cittadini che è meglio non rubare piuttosto che fregare. A presto, buon campo, buona trattore. Mi raccomando con la cinghia. Scoprite dove sta Palenzo, perché quello sta dietro la porta. Sicuro. Buonasera, allora siete due facce di merda, ovviamente. Poi, amico mio, non stai benissimo. Ullala ragazzi, buonasera. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. Ricomparsa la Lega nei weekend, Parenzo, è ricomparsa la Lega con un congresso a Padova. Allora, se hai visto tutto, non hai visto una mazza. Salvini, il segretario, no, Salvini. Tutto, tranquillo, stai calmo, stai tranquillo. Come faccio a fare le primarie? Se devi dire banalità, stai zitto. Come faccio a fare le primarie? Come faccio a fare le primarie con chi si iscrive all'arcigay, cioè riferimento è alla Pascale, cioè Salvini, e qui lo critico, qui lo bastono, qui gli dico che sta sbagliando. Come faccio a fare le primarie con chi si iscrive all'arcigay? Vabbè, caro Salvini, però non è che uno la debba pensare per forza come te. Visto che qualcuno da Arcore è andato a Napoli per tesserarsi all'arcigay, cioè parliamone. Perché se devo fare delle primarie le devo fare su un progetto di vita comune. Non posso fare delle primarie. Poi dice di essere felice per la soluzione di Berlusconi, però sono due assoluzioni sospette. Perché da quando Berlusconi si è messo con Renzi, cioè segue Renzi, non è al governo chiaramente, però lo appoggia nelle riforme, sono arrivate le assoluzioni. Bah. Uno mi toglie il dubbio che però in un mese due assoluzioni ad Arcore non si sono mai viste nella faccia della terra. Prima Pier Silvio, poi Silvio. Quindi o c'è una coincidenza astrale particolarissima, oppure il fatto che Pier Silvio abbia fatto un'intervista in cui ha detto Renzi è un grande, pum, assolto. E Silvio abbia detto ti voto la legge elettorale, pum, assolto. Se qualcuno crede a Babbo Natale, alzi la mano. Io ho provato a crederci, a 8 anni ho dovuto smettere, però se sei bravo... ti lascio stare. Il nostro Rocket Man è Antonio Razzi, il quale scherza forse un po' troppo secondo alcuni, cioè non è il momento per scherzare sul suo cognome, che è ovviamente simile ai razzi quelli veri, però quelli veri, i razzi di Hamas, eccetera eccetera. Lui era la commissione esteri, è segretario della commissione, e alcuni dicono non dovrebbe scherzare così sui razzi palestinesi, insomma sul Medio Oriente. Dice, ma guarda, ma questi stanno approfittando del mio nome, ma insomma, mo mi chiede i diritti d'autore anche ai razzi che buttano giù. No, non posso andare io in missione perché sennò arriva Razzi e sto cazzi, scusa la battuta. I miei colleghi senatori mi chiedevano se non ero a Gaza. Sì, miei colleghi senatori mi diceva: ma oh, ma non eri a Gaza? Beh, io sono stato stanotte, ma già sono ritornato. E gli dicevo: sì, razzi a Gaza, razzi. Ma Razzi sa dove confina Israele? Cioè, quali sono i confini di Israele? Israele, per esempio, con chi confina, Anto? Sicuramente non confina con Pescara, guarda. E nemmeno con Monte Silvano, questo ci sono sicuro. Il resto adesso mai preso all'improvviso. Ma sì, starà lì, c'è il Libano, c'è la Palestina, c'è l'Israele, E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Nuova strage a Gaza, un missile israeliano colpisce l'ospedale, 4 vittime, razzi di Hamas su Tel Aviv, l'ONU subito cessate il fuoco. Mosca accusa Kiev per l'aereo abbattuto, un caccia ucraino vicino al Boeing, recuperati quasi tutti i corpi, Obama, la Russia non ostacoli le indagini. Il ministro Boschi contestato dalle 5 Stelle, sulle riforme nessuna svolta autoritaria, verso lo slittamento e il voto sul nuovo Senato. 5 Stelle dalla protesta in aula all'ipotesi di presa del dialogo sulle forme della legge elettorale, 6 quesiti al PD per riaprire il tavolo. Ancora vittime nel canale di Sicilia, morti altri 5 migranti, erano a bordo di un gommone naufragato con 80 persone. Caso Uva, rinviati a giudizio 6 poliziotti in un carabiniere per omicidio preterintenzionale, la sorella Giuseppe è stato picchiato in caserma. Maltempo al Giglio, rinviata mercoledì la partenza della Concordia, devono ancora riemergere 3 metri di scafold, relitto domenica a Genova. Cosa farebbe Razzi del Senato? Una casa di appuntamenti. Ma guarda, proprio oggi lo stavo dicendo scherzosamente a un senatore collega. E io stavo dicendo: minchia, dice, qua ci renderebbe proprio una bella casa fenomenale di ritrovo, e darebbe ancora posti di lavoro, almeno diventerebbe il lavoro per tutti. Visto che si chiama Madama, è riservata alle madame. Caro Di Pietro, ma che quale sensazione prova a sentire Razzi sulla breccia che dice la sua, che viene ripreso, che viene... Breccia. Beh, un po' così, ancora senatore e lei fuori. Interrogato come comico. Come comico, come quello che vuoi. C'è lei a zappare la terra e Razzi in Senato. Cosa prova davanti a questa immagine? Ma guarda che io ho letto stamattina che l'hanno... lo vogliono prendere in un film con De Niro. Ma chi l'ha detto? Sta scritto sul giornale stamattina, sul Messaggero edizione Abruzzo, in prima pagina, c'è scritto che deve andare a fare questa parte in un film, eccetera, eccetera. E vabbè, il problema, ripeto... Però, Di Pietro, cosa prova di fronte a questa cosa? Addirittura una parte con De Niro, possibile, adesso non sappiamo bene. In Senato dice la sua, anche se, per carità, Crozza, eccetera. Lei a zappare la terra, quello in Senato, si rende conto o no? Ma io faccio qualcosa di serio, lui chiacchiera. Senta, ma io da lei volevo sapere ancora un'altra cosa. Ma a Berlusconi i servizi sociali così blandi, non le converrebbe venire a zappare con lei la terra giù a Montanello? Che dovrebbero dare, infatti, se come servizi sociali gli dicevano di venire a dare una mano a me, facevamo 2 favori: uno, che mi ripagava di tutte le offese che mi ha fatto, e 2, gli italiani stavano tranquilli che se te lo avevano 2 piccioni con una fava, insomma. Cioè, alla fine lì lavorava. Di Berlusconi e Di Pietro, capisci? Gli italiani come stavano contenti. Ma perché si devono liberare di Berlusconi? Perché lì che faceva? Moriva, che mica moriva là da lei. No, se stava da me, voglio dire, serviva a qualcosa, lavorava pure lui. Ah, ma poi da lei... Quale lavoro gli affideresti? Quale compito gli affideresti? Che cosa gli faresti fare lì ai campi tuoi? La prima cosa da fare è zappare. È zappare, la prima cosa. La seconda cosa è di togliere un po' di pietre, se permette di togliermi anche io qualche sassolino. Ma non ho capito... potresti dargli falce e martello e gli fai proprio falciare la terra, bellissima, tutta l'immagine. Berlusconi con la falce e il martello. La zappa ci vuole. La zappa. La zappa. La zappa. Ma ci stanno femmine là o no? A Montenero, cioè Berlusconi, sai. Già, tu dici? Beh, oddio, per l'amore di Dio. Io in genere in campagna ci sono rimasto soltanto le vecchiarelle, quindi non so se ti fa piacere. No, quello no, ormai no. Berlusconi da questo punto di vista no, da questo punto di vista non si può dire niente. Cioè, Perché sia sì, vecchiarelle, giovane, comunque sia. No, quello è sempre stato. No, quello è stato sempre un buon gustaio, ha scelto sempre giovani ultimamente. Dai, quella guarda con chi sta. Ma in campagna mi auguro che ci tornano anche un po' la gioventù, perché qui adesso tutti scappano dalle campagne, ma poi qualcuno, voglio dire, tutta a mangiare la frutta, a mangiare. Ma qualcuno farà pure, no? Mica dobbiamo andare sempre in Cina, o no? Ma Concetta, come sta Concetta? Concetta, non so se lo sai, ma dall'altro ieri, se tu vai a vedere sul mio blog antoniodipietre.it, dall'altro ieri, siccome sto in campagna, sì, dall'altro ieri, una volta alla settimana fa un videoblog. Io ho detto, Concetta, fai un selfie, a me non me l'ha mai detto nessuno, selfie, che vuol dire? Cioè manco sapevi che fatto, manco sapeva che era il selfie. Chi ci ascolta, andate a vedere, antoniodipietre.it, trovate la romanzina di Concetta, che fa pure a me. E ma quando io gli chiedo, ma cosa pensi di Berlusconi? Perché mi ha detto a me, Concetta, ma mi spiega un po' sta sentenza. Sì. Io ho provato a spiegargli, poi lei mi ha guardato, sta proprio lì, in diretta, lo posso vedere. Poi sì, poi andiamo a vedere, sì. Allora, e lei dice a un certo punto, ma che me ne frega a me di Berlusconi? Non capivo o non capivo? Puoi capire o non puoi capire che l'italiano deve sapere come fa arrivare a fine mese? Una romanzina della Madonna. E poi adesso l'andiamo a prendere. E poi mi ha chiamato la fine, hai capito o no? Ma te? Hai capito? No, Matteo, a Renzi dici. Hai capito? No. Ma che ha votato? Concetta. Ma Concetta, che ha votato? Ha votato Renzi, mi sa, Concetta. Eh? Concetta, che ha votato? Ha votato Renzi, Concetta. Concetta dice sempre, vota Antonio, vota Antonio. Vabbè. Caro amico, ciao, a presto, mi raccomando il campo. Ciao, mi raccomando, ma se i consigli di Concetta, fa bene. Mi raccomando il campo, mi raccomando il campo. Ciao, Zappa. Se mira oggi, raccogli domani. Ciao. No, io sono un professore, voi siete soltanto due giovani coglioni. Allora, io sono perfettamente d'accordo con la moglie di Ferrara, che si chiama Selma Dell'Olio, come sapete, la quale ha scritto: se li sono anche scopati, cioè gli uomini ricchi, le cosiddette olgettine, sono letteralmente cazzi loro e non per questo si meritano di essere insolentite come escort. È una strada quella di frequentare maschi VIP trafficata anche a sinistra. E poi, beh, in questo mi sento di seguirla. La vera festa della donna non dovrebbe essere più l'8 marzo. Il tragico 8 marzo, che non mi ricordo che cosa rievoca, una roba tragica, dicendo le operaie. La morte delle operaie. Sì, vabbè, non dovrebbe essere più l'8 marzo, ma il 18 luglio, la sentenza di assoluzione di Berlusconi. Viva la libertà sessuale! 18 luglio, nuova festa della donna. Brava Selma, brava! E che cazzo, dai, ha ragione lei, 18 luglio nuova festa, no il 9 marzo con una data sfigata, 123 operai a morte, ma chi se ne frega, sì, per carità, grande, l'8 marzo, grande rispetto. Una provocazione di una stupidità. No, no, ma che provocazione di stupidità, è ottimo, via l'8 marzo, sì. Via l'8 marzo, morti per carità, via, viva il 18 luglio. Ma guarda che se uno si vuole prostituire non occorre celebrare. Viva il 18 festa, luglio, nuova festa della donna. Stasera hai aperto la trasmissione con Ferrara, stavate eiaculando tutte e due. Allora ragazzi, caro Parenzo, fosse vera la storia, poi parliamo dei rom, quante cose dopo le 20, amici miei, vi devo raccontare due o tre cosette sui signori rom, i signori rom, ne ho visti alcuni, sono andato a Roma questo fine settimana, cioè sono passato da Roma questo fine settimana, ho visto alcuni rom, alcune signore rom vestite in maniera, no, con queste tuniche larghe, queste tuniche larghe, vestite come sono con la pelle olivastra, le mani piuttosto zozze, presidiate cambiare presidente. È vero, ragazzi, hanno le mani inutili, mi dite di no. Hanno le mani sozze, non sono pulite. Cioè, non è che vedi delle rom in giro così dici colpa quanto sono pulite. No, sono sozze, ho capito. Ma è un dato di fatto, anche tu ogni tanto sei sporco. Anche tu sei sporco. Io guarda, io mai, a differenza tua, mai. Ma ho capito, ma lascia perdere. È vero o non è vero? È vero o non è vera questa cosa qua? Non sono, sono pulite. Quelle che trovi in giro sono pulite. Vabbè, d'accordo. Siccome il politicamente corretto, siccome il politicamente corretto ti proibisce di dire che sono sporche. Ormai c'è, va bene, il trionfo della scorrettezza e della stupidaggine. Sì, ritornare sì. al politicamente corretto è quella la vera eversione. Vabbè, no? Vabbè, lascia perdere la filosofia. Lascia perdere la filosofia. È tutto, far la pipì per strada. Ma quale pipì? Non dire così. Stupidaggini. Ormai ma non dire stupidaggini. Stavo raccontando una cosa. Queste signore vestite in questo modo, leggermente sozze, eccetera, presidiavano le macchinette distributrici dei biglietti alla metropolitana di Roma. Lo so, ci vado ogni giorno. Ecco, presidiavano lì e sostanzialmente. Sì. Si avvicinavano le gente e rompevano i coglioni ma in maniera pressante, in maniera molto forte. Anche gente di sinistra che io conosco, che transita da quei posti lì, inorridisce di fronte a questi spettacoli. Per amore, se lei è... che tempi. Allora, se fosse confermata la storia di questa professoressa cacciata, ecco, dalla scuola, aspetta, fermo, dalla scuola paritaria, cattolica, certamente, ma con finanziamenti pubblici, da una scuola cattolica in quanto lesbica, cioè convocata dalla suora, la superiore, le ha fatto delle domande sul suo orientamento sessuale, avrebbe anche detto, beh sì, ma se lei poi vuole riparare, cioè se vuole iniziare un qualche corso, eccetera, eccetera, per guarire, in sostanza. Tappare la gaffe. Fosse vero tutto questo, amico mio, beh, io non capisco cosa si aspetta a cancellare quel finanziamento pubblico da questa storia, da questa scuola che discrimina i professori in base all'orientamento sessuale. Giusto. Tu vuoi essere scuola cattolica e vuoi assumere chi ti pare, anche tutti quelli eterosessuali, e non vuoi assumere lesbiche, froci, eccetera, eccetera? Non prendi finanziamenti pubblici, poi fai tutti gli screening che vuoi, fai tutte le indagini che vuoi sull'orientamento sessuale dei tuoi insegnanti, però non prendi soldi pubblici? Non prendi soldi pubblici e allora assumi pure le persone, tutti gli eterosessuali, per quanto si possa controllare una cosa di questo tipo, perché in realtà non è che si può, non credo che si possa controllare troppo. Cioè, la signora superiore ha convocato questa qua e gli ha detto: scusi, dicono che lei sia lesbica, ma che cazzo vuoi? Tu superiore, cosa straminchia vuoi dalla tua vita di questa qua? Cosa vuoi? Ma cosa pretendi? Cosa chiedi? È lesbica, ti ha mai dato dei problemi? No. È una brava insegnante? Sì, ma perché gli devi rompere i coglioni se è lesbico o no? Cosa fa a letto con la sua compagna? Se vive o no con la sua compagna? Che te ne frega a te? Che fa propaganda omosessuale dentro la scuola questa ragazza? Questa insegnante fa propaganda omosessuale? No, non è che dice agli alunni dovete andare con i vostri, no? Con le persone del vostro sesso. No, non dice questo. Fa la professoressa. E che cos'è? Che è un bel ambiente? Ambiente di maiali. La Cruciani è un'icona frociona ora, lo sa? Sì, vabbè, ma a parte questo, l'icona frociona, questa è una storia importante, non è una cazzata delle nostre, cioè una cosa vera, cioè c'è una scuola finanziata con i soldi nostri, in cui una suora, una non so come, che diavolo di carica ha, la superiora, convoca una... Ma mi sembra che il ministro... Ma il ministro sta lì, prende informazioni, ma che informazioni devi prendere, prendi informazioni. Il ministro ha detto, se è così, valuteremo la questione del finanziamento, ovviamente, è uno scandalo pazzesco. Va bene, Paolo da Bari, dai. Paolo? Pronto? Dimmi, dai Paolo, forza. Pronto, buonasera Cruciani. Dimmi buonasera, caro, Parenzo. Allora niente, volevo innanzitutto punto di vista, che per me Marco Travaglio è uno dei migliori giornalisti che abbiamo in Italia. Qualcuno l'ha messo in dubbio? No, ho sentito parlare prima il mio punto di vista. Poi volevo dire un'altra cosa, sembriamo che adesso la magistratura funziona, va bene, non ci sono... Ma chi ha detto? Chi l'ha detto? Chi l'ha sostenuto? Berlusconi prima sosteneva che c'era un complotto contro di lui, c'era una cosa, c'erano tutti quanti erano perché lui, per farlo uscire, ha tirato tutta, scusa il termine, la merda addosso, invece adesso... Sembra che sia cambiato il vento perché è stato assolto. Guarda, mi viene ma chi? Da parte di chi è cambiato il vento? Di quelli che da giudicano parte... i magistrati? No, perché io, scusa, poi voglio sapere, la denominazione del PDL sì. è partito non dei esiste Lettini... più il PDL, esiste Forza Italia che si è diviso ma... dal nuovo centrodestra. Ah, quindi non esiste più. Ma se lei non sa manco che non esiste più il PDL, ma che chiama fa? No, PDL perché insomma alla fine era PDL, Forza Italia, e allora non era più partito dei Lecchini. E poi ti volevo dire un'altra cosa, guarda, ma proprio con una chiarezza normale, ti posso fare una domanda? Pronto? Dimmi Pronto? Paolo, dimmi. Non ti sento bene. Dimmi. Pronto? Sì? E il conduttore? Sì, sempre il conduttore. Allora Paolo! È caduto. Ma Marco, provincia di Genova, dai, Marco. Richiamiamolo questo, Marco, vai. No. Sono della provincia di Venezia, buonasera. Ma ce ne sono due Marco, hanno alzato quello sbagliato. Dai, provincia di Venezia, forza Marco, che devi fare, è così. Vi ringrazio intanto di avermi fatto intervenire. Volevo parlare del... Vediamo se ringrazi, sono... prima bisogna vedere, poi vediamo. No, se... in ogni caso, ringrazia in dopo, caso, ringrazia in dopo, caso. Sempre meglio. Su Berlusconi due questioni. Io da cittadino, da padre di famiglia, direi che da parte sua c'è stato un comportamento veramente immorale, però da cittadino quello che colpibolizzo non è la questione Ruby, che è un processo che a me fa ridere. A me la cosa che più disturba è stato il fatto che lui se ne sia fregato dello Stato e delle nostre imprese, dei nostri cittadini, delle nostre famiglie, perché mentre lui festeggiava, qui nel Veneto le industrie chiudevano. E i cittadini stavano a casa, non c'era niente da divertirsi. Ma che cosa c'hai da ridere? Non c'era da divertirsi, cosa c'hai da festeggiare? Questa è la cosa che è colpevole, di essersene fregato del nostro Stato, delle nostre fabbriche, dei nostri lavoratori. Io ho girato per lavoro tante industrie, il disastro che il governo Berlusconi ha combinato, diciamo che non tanti hanno fatto altro meglio, non posso dire. Comunque da imprenditore mi aspettavo di più, io nel 94 l'avevo votato. Vabbè, lei sta dicendo che non gliene frega niente delle storie di letto di Berlusconi, delle oggettine, del bunga bunga eccetera. Quello che rimprovera Berlusconi è il fatto di non avere fatto una beniamata mazza per l'economia degli italiani, per le tasse, per le imprese eccetera. Guardi, io lavoro in un'associazione, dice, no lavoro, anzi lo faccio come volontariato, sì. E abbiamo fatto più politica noi come associazione che lui, perché leggendo i decreti che ha fatto veramente disastri. Quindi se va a casa lo ringrazio, non mi interessa che venga condannato per niente. Vabbè. L'importante è che vada a casa. Ciao tesoro. Ciao Paolo, abbiamo ripreso Paolo. Vabbè, come sintetico volevo dire. Sì, comunque, sintetico. Basta parlare di Berlusconi, ha fatto il suo tempo, sono 20 anni che ci rompe queste cazzate, cioè, andasse a casa, perché abbiamo un paese bruttissimo, abbiamo un paese che ha ridotto all'osso. Poi? Con 54.000 posti di lavoro, con l'ICI, con l'IMU, ha fatto il bordello, buga bunga, ha fatto di tutto, guarda, adesso basta. Noi li preghiamo, la gente onesta, con tanta serenità di andare a casa. Ho capito, ma quello si presenta alle elezioni, ha preso il 17%, saranno gli elettori a dire se deve andare a casa o non deve andare a casa. Paolo. Ma è facile come li prendi. A parte che non si può più presentare per il momento, lo sai, no? Per 6 anni secondo la legge Severino. È stato capace, lo sai anche dal processo che ha combinato, perché lì c'erano due soluzioni, doveva o dormire in caserma quella, in questura, oppure andare a collegio. Vabbè, ma basta adesso questa storia. Mi provo, mi dici che prendi i voti, ma è normale, se è stato capace di fare una cosa del genere, è stato assolto, figurati come prendi i voti. Vabbè, come li prende i voti? Come li prenderebbe i voti? Come li prenderebbe? Secondo te sei abbastanza intelligente, io ti ammiro, come Travaglio sei uno dei più... Anche ma come li prende? Te. Spiegami, come li prende questi voti? Prende, li prende, dai, prende come li prendono donna, tutti? Come li prendono? Come? Cioè li compra? Se li compra, adesso compra i voti. Compra i voti, compra i voti, benissimo. Se vuoi che te lo dico io, lo sai già. Ma no, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, guardi... Guarda, sì, ma ho capito, ma non è che devo dire, non è che devo dire per forza che Berlusconi compra i voti per essere Gagliardo, assolutamente, però so che quando hai un motivo che a te piace, non hai paura di Berlusconi che ti sente. Ma certo che non ho paura, ma abbiamo criticato 40.000 volte qui in questa trasmissione, non è quello il problema. Ma se mi dici tirato, ma dai, quale freno a mano? Ma che devo fare? Li devo scorreggiare in faccia? Che li devo fare a Berlusconi? Scusami. No, questo no. Prima dici questo no e poi dici però col freno a mano. E che devo fare? Cioè, siccome quando parli di Berlusconi è diverso quando parli, critichi giustamente Grillo, c'hai sempre il freno a mano. Ma non è vero, ne abbiamo detto di tutti i colori su Berlusconi. Chiedo aiuto su Parenzo, su questo. Ma Parenzo che... vabbè, chiamiamo. Sì, che dimmi, cosa, chiede aiuto sul paese. Non si può, in questa trasmissione qui non è che abbiamo mai risparmiato critiche al Berlusca. Certo, adesso la cosa che un po' mi stupisce è questi qui che sparano a zero su Repubblica, sul Fatto Quotidiano, per cui sembra che abbiano sbagliato tutte le loro previsioni, ma nessuno ha fatto il tipo, ha fatto delle previsioni sbagliate. No, cioè, ma è tutto regolare, è tutto corretto. Ma quale previsione? Tutto corretto, quello che è successo è tutto, nessuno si deve pentire. Una soluzione, ma pentire, ma sei matto? Va bene, è tutto normale, è tutto normale, benissimo. Ma soltanto in questo paese dici allora Travaglio ti devi pentire. No, per ma io non ho detto di no, Travaglio, ho detto che negare che una parte della stampa. Negare che una parte. Dicendo? Va bene, d'accordo. Negare che una parte. Giuliano, Selma, bene, sì. Gli amici del giornale, gli amici di Libero. No, è tutto allora, normale, è tutto normale invece, è tutto normale. È tutto normale. Abbiamo vissuto 20 anni di battaglia giudiziaria in cui i giornali di destra, di sinistra, di centro si sono divisi su questo. Si sono semplicemente divisi. Bene. Si sono divisi e ci hanno messo il cappello sopra. Lezioncina di Parenzo, un po' breve però, sintetica, sintetica. Poi vai. Mi devi spiegare tu che appartieni a quella corrente là. Ma la corrente tuo nonno appartiene, tuo nonno appartiene alla corrente. Tuo nonno appartiene alla corrente. Non appartengo a nessuna corrente, capito? Sei tu che appartieni a una corrente. Io non appartengo a nessuna corrente. Tu appartieni a una corrente, io no, capito? E vergognati di queste cose. Io non appartengo a nessuna corrente, musica. Non appartengo a nessuna corrente. Basta. We don't need no education. Ah beh, ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, eh. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Abbiamo con noi, grande ritorno alla Zanzara, Oscar Farinetti, buonasera. Buonasera Cruciani. Come andiamo? Benissimo, sono dentro Italy di Milano. Italy di Milano, vabbè. Ma sono venuto a vedere, a controllare uno a uno le iscrizioni ai partiti dei nostri collaboratori. Perché? Perché desidero che siano rispettate le quote, perché abbiamo scoperto oggi che ne abbiamo soltanto 4 su 120 vicini al PD a Genova, e gli dovrebbe aspettare 40,8, giusto? Quindi adesso verifichiamo in tutti i punti, perché dobbiamo rispettare. Cioè bisogna aumentare la quota di assunti in del partito. Ho scoperto che c'è un sacco di grillini a Genova, pochi del PD, meno male che me l'hanno fatto notare, perché non me ne ero accorto. Per cui lei è venuto a Milano, a dire vediamo a Milano quanti sono gli iscritti, i dipendenti e che cerchiamo sono di metterli in ordine, visto che abbiamo la fortuna di avere dei media che si occupano di opinione pubblica, si occupano di problemi molto importanti, addirittura 2 giornalisti per scrivere cose. Allora, così si sta riferendo Farinetti, per chi non lo sapesse, è un articolo uscito oggi su Fatto Quotidiano in cui si dice, leggo i titoli, Italy assume mezzo PD e sogna Portofino, ai tavoli una schiera di amici e parenti, la regione modifica una norma e li fa aprire a Genova, eccetera, eccetera, Allora, però io voglio capire una cosa. Però noi non parliamo di sta stupidaggine, no, oggi parliamo di cose serie. No, sì, adesso parliamo anche è il problema del nostro paese di parlare solo di stupidaggini. Guardi, no, Farinetti, no, io lo so che sono con lei a spada tratta. Il punto fondamentale però è uno, chiarire una questione. L'accusa che le fa il Fatto Quotidiano è quella in sostanza che lei, per facilitare l'apertura degli Italy, dei centri Italy, dei punti Italy, dei ristoranti Italy in tutta Italia, in particolare in Liguria, si lega fortemente alla classe dirigente locale e successivamente una piccola parte di parenti eccetera di questa classe dirigente lei li assume Italy. È un'accusa anche grave, se vogliamo, perché adesso vediamo se vanno avanti, querelliamo nuovamente. È una stupidaggine, non ho neanche da commentare, è veramente una stupidaggine enorme e io faccio fatica ultimamente a commentare stupidaggini, non ci riesco, guarda, è più forte di Per cui anche il fatto della compagna dell'ex segretario Rosetto, il figlio del governatore Burlando, ma guardi, io non sapevo neanche della compagna, magari qui che lavora a Milano, sono 352, c'è la compagna di un grillino e poi ci sarà uno che è di Di Pietro, poi ci sarà qualcun altro, ma chi se ne frega? A me lo dice. Ma chi se ne frega, per piacere? Cioè, occupiamoci di questo paese che sta andando in rovina, e sta andando in rovina anche perché se costruiamo un'opinione pubblica di quel genere, il sospetto sempre, è una roba terribile. Cosa vuole il fatto? Che chiudo Genova? Lo chiudo, chiudiamo Genova, 120 persone, è un successo clamoroso, abbiamo aiutato a ridare vita al Porto Antico, una meraviglia, un posto dove erano già falliti 3 ristoranti, abbiamo cercato di fare una cosa bella, ma che me ne frega. Qual è l'obiettivo del fatto, secondo lei? Quelle robe. Qual è l'obiettivo del fatto? Raccontare una storia oppure colpire Farinetti? Ma io non riesco a capire, non riesco a capirlo. So, probabilmente giudicano che scrivendo ste robe vendono un po' di più, probabilmente è un quotidiano basato su quello, questi scandali, e ne cercano, non ne trovano di grossi, ne mettono, se ne inventano. No. Questa è una roba. È una roba piccola per questo paese. Beh, piccola, però Farinetti, essere accusato di assumere delle persone che hanno legami con dirigenti regionali. Io non ce la faccio a difendermi da roba che non ho commesso. Mi viene addirittura da ridere. Guardi, cosa vuole che le dica? Non posso perdere. Se lei vuole parlare di questo, ci salutiamo. No, perché io lo sa, Farinetti. A guardare quelle robe lì. Per esempio, l'altra accusa che le fanno, e poi chiudiamo, è la questione del fatto che lei spinge, almeno secondo quello che scrive il fatto, quella che sarà la candidata molto probabilmente del Partito Democratico, e dicono che il suo ruolo, che è anche quello di, come dire, siccome lei deve aprire dei centri commerciali e dei ristoranti. No, non devo aprirne più nessuno in Liguria, guardi. A Portofino dicono, no? Portofino dicono. Da vendere, eh? Portofino dicono, sogna Portofino. Ma io non l'ho capito, sta roba di Portofino, non lo so, io non c'entro niente con Portofino, si sbarca Portofino, io non ho barche da sbarcare a Portofino, non sarei. Cioè Italino non vuole aprire a Portofino? Ma quanti abitanti fa Portofino? D'inverno. Infatti, ma anche a me sembrava assurdo, anche però. Anche uno che capisca un minimo di retail, pensare che io posso aprire un Italia a Portofino, è talmente folle tutto, quella roba lì, è tempo perso, che se loro hanno voglia di perdere tempo lo facciano, io direi di no, ho bisogno di lavorare tranquillamente e serenità, mi piace scherzarci sopra con lei. E lo faccio volentieri perché sa prendere il lato, perché ogni tanto bisogna anche un po' ridere sulle no, robe, no? Ma sì, ma per carità, però l'accusa di clientelismo, l'accusa di clientelismo non è un'accusa così leggera. Se poi adesso andassero avanti e scrivono delle robe gravi, io oggi non ho letto, io non ho mai querelato nessuna vita mia, ho dovuto querelare il Fatto Quotidiano, ho dovuto già farlo perché ho scritto delle robe false, mi spiace. Ma però avanti e continuerò a farlo, non posso fermare, se adesso esagerano andiamo avanti. Allora, quello che è scritto lì è una stupidaggine enorme, perché se vogliono andare avanti a vedere se c'è dei compagni di uno iscritto al partito di Rotondi e poi c'è il figlio, non lo so, magari ci sarà, di uno che invece fa politica dirigenti dicono loro in Forza Italia, ma cosa vuole che dica? Io no, poi dicono che lei che lo dicono, dicono che la regione ha fatto modificare una norma per consentire l'apertura a Genova. La regione, se io non lo so perché non me ne occupo, ma se ha fatto così ha fatto molto bene, perché grazie a quello si sono creati 120 posti di bravo lavoro. Anch'io la penso così, si hanno modificato una norma per far aprire un posto rispetto magari a una roba che non produceva nulla, hanno fatto bene, la penso come Farinetti io su questo. Ma lo fanno tutti, quello di modificare, si chiama politica. Ma perché se ci sono delle norme esistenti che non ti consentono di fare delle cose, se tu ne vuoi fare un'altra, che non è che distrugge qualcosa con le bombe, ma semplicemente sostituisce qualcosa che c'era. Ma quante volte lo hanno fatto, ad esempio per aprire, che so io, IKEA in alcune città, le regioni hanno modificato delle norme perché dice questa cosa qui può dare centinaia di posti, può dare posti di lavoro, certo. Modificata. È successo un sacco di volte, io parlo del caso del Veneto, ad esempio, che è quello che conosco, dove hanno aperto IKEA. Ad esempio dico IKEA, ma potrei dire un altro, ma conosco quello, e hanno modificato delle norme in regione. Cioè, se non lo fa la politica, chi lo deve fare? Scusi Farinetti, ma lei Travaglio come lo giudica? Un bravo giornalista? Non lo conosco, quindi io ho smesso da tempo di giudicare le persone che non conosco. Ma lo inviti a Italia, me lo inviti lì, una giornata lì. Quest'anno lo invito alla nostra fondazione, lei Cruciani c'è stato. Sono stato, sì, c'è stata anche... Quindi, ci sono state tante persone. Quest'anno invitiamo di novità Parenzo e Travaglio e vorrei mettere insieme. È d'accordo, Cruciani? Io sono d'accordissimo. Perfetto, io sono d'accordissimo. Parenzo c'è. Io ci sono sicuro, benissimo, mi fa piacere, vengo volentieri. Secondo me può essere una bella serata. Basta poi non comparire sul fatto con dire ecco Parenzo, amico di Italia, perché poi diventerebbe la cosa. Senta, ma invece a proposito di quote, lei mi ha fatto venire in mente una cosa, siccome si parla molto, perché Parenzo non ci... Farinetti si dovrebbe inventare una cosa, assumo una quota di clandestini, assumo una quota di extra... un rom. Una quota di extracomunitari. Guardi, allora di extracomunitari ne abbiamo moltissimi, a Torino il 20%, adesso non credo siano clandestini, cerchiamo di non tirare fuori sta roba, se no domani monta di nuovo un casino. Per carità. Credo che abbiano tutti il permesso regolare. E le posso dire una roba? Come crede, avranno il permesso regolare? Si impegnano, sono ragazzi straordinari, soprattutto nei lavori manuali che richiedono un po' di sacrificio anche come orari, tipo la panetteria che bisogna andare presto, la macelleria, abbiamo più facilità a trovare disponibilità in immigrati, no? Purtroppo è così, lei dice che sono più adatti ai lavori manuali. Per fortuna è così, va benissimo. No, sono prima più adatti. Di tutto guadagnano di più di altri che fanno lavori di intelletto, anche perché c'è un'offerta inferiore. Oggi non si riesce a trovare macellai, salumai, sfoglini, panettieri, è più facile trovare direttori marketing. Ma secondo me se va avanti così nel tempo succederà che poi gli italiani, diciamo la verità, alcuni lavori gli italiani non li vogliono fare. Diciamola tutta come sta la cosa. Sì, ma secondo me non c'è neanche niente di male, ma lei pensi non avessimo gli immigrati, il vino è fatto tutto dai magrebini, glielo dica a Salvini però, e lo fanno anche molto bene nel rispetto delle nostre tradizioni, delle nostre culture, io sono molto contento di questo, invece no, la cosa... Lo dica a Salvini, oppure assuma anche dei rom, oppure no, sui rom no, mi sa che i rom... Non lo so se ne abbiamo assunti, ma non lo so. I rom no. Beh, è complicato. Lei me l'ha detto, magari ci penso. Comunque lo dica a Salvini che gli immigrati in alcuni casi salvano dei settori. Gli immigrati sono una forza enorme del nostro paese, ne avremo sempre di più, e tanto si va verso l'integrazione che deve diventare interazione. Cioè ce ne vogliono di più di immigrati? Ci vogliono più immigrati? Nel senso che noi non possiamo spostare le migrazioni del mondo, sono naturali. È ripartito un grande fenomeno di migrazione, soprattutto da stati che hanno problemi enormi. E bisogna accoglierli, dice lei. E cosa facciamo? Abbiamo altra strada, bisogna trovare il modo. Io su questo, Farinetti lo sa che la penso diversamente da lei. In Valtellina, a mungere le mucche, ci sono gli indiani ci sono a mungere le mucche. In tutta Italia. I bergamaschi, ma questo leader della Lega, nuovo che si chiama Salvini, le piace? E anche lui non lo conosco, non ho la minima idea, l'impressione che ho io che ne hanno messo una persona così forte, radicale, con queste posizioni così radicali per mantenere il loro zoccolo duro di 5-6%, 5-6% di italiani così duri su questi problemi esisterà sempre. E avere uno zoccolo duro di 5-6 punti consente di avere posizioni di potere, eccetera. Il problema è che probabilmente loro hanno pensato che se andavano su posizioni più moderate, vedi Maroni per esempio, che conosco, a me sta simpatico per esempio, vedi Maroni, probabilmente si avvicinano di più ad altri partiti moderati e si sono alleati con la Le Pen. Il voto dello zoccolo duro lo perdono e magari non guadagnano quello di altri. Salvini, quindi è un rischio. Credo che abbiano preso questo tipo di decisione. Salvini ha anche detto: non faccio le primarie del centrodestra con chi si iscrive all'arcigay. Capito? Quella. Non è neanche. È come il coso del Fatto Quotidiano, è incommentabile. Allora, però volevo dire che io conosco tanta gente della Lega anche per bene, che non hanno posizioni così radicali. Meno male. L'articolo più bello, tu l'avrai letto sicuro, che c'è oggi in prima pagina sul Fatto Quotidiano, è un altro. Qual è? Dimmi. Allora, il Fatto Quotidiano si è occupato sempre delle telefonate di testo tra Berlusca e le sue amiche, sì, no? Sì, sì. E oggi cosa ti pubblica in prima pagina? Cosa? Una straordinaria inchiesta dal titolo Chi telefona non fa l'amore, dove i cronisti del Fatto hanno collaudato la nuova app che trova la persona più vicina per fare sesso. Questa è la cosa più straordinaria. Cioè, guarda come la sentenza cambia tutto. Ma non credo, credo che fosse già previsto al di là della sentenza. È chiaro che era prevista, ma è straordinario che il Fatto Quotidiano. Sì, fa un'inchiesta che io ho letto attentamente su queste applicazioni. Su queste applicazioni che praticamente ti danno in tempo reale la persona più vicina a te per fare sesso. Poi bisogna mettersi d'accordo. Come la Uber del sesso. Come la Uber del sesso, sì, è vero. Come la Uber del sesso. Immagino che Farinetti, che è tutto casa e chiesa, non conosca queste applicazioni. Così. Farinetti? Dica. No, dico, immagino che lei non conosca questo tipo di applicazioni, immagino. No, io non conosco le applicazioni in generale perché ho un telefonino ante. È vero, questo posso essere testimone che non usa mezzi tecnologici avanzati. Ma è colpa mia perché sono pigro. Ma a proposito di Berlusconi, ma lei è contento della soluzione? Non sono contento, però debbo dire che giudicavo esagerato. Io sono tra quelli che, come tutti sapete, non la pensa come lui, certo, però. Ma che pensa che ci sia stato un accanimento. Sì. E quindi penso che i problemi siano ben altri e penso che tutto sto tempo dedicato a Rubi sia tempo rubato a occuparsi dei problemi reali. Cioè hanno sprecato per esempio un sacco di soldi i magistrati facendo intercettazioni. Sì, ma poi ultimamente noto che c'è un'esagerazione, forse è esagerato chiedere 7 anni, come probabilmente è anche esagerato considerare che quella telefonata non sia una roba abbastanza gravina, secondo me. Sì, ma la telefonata... Io sono rimasto più scandalizzato di tutto, mica di Rubi o dei Cestini, o di che cosa? Si fa come vuole. Di sta telefonata, perché con i problemi che ha un presidente del consiglio, secondo me, i casini che ha, amministrare un paese del genere, che è difficile, pensare di dedicare del tempo per far liberare da un ufficio di polizia una ragazzina che aveva rubato, perché il motivo era questo, secondo me non va bene. Un presidente no, ma questo consiglio non c'è dubbio. Deve fare quelle robe lì. Io su questo sono d'accordo. Poi io non ho libidine che lui vada in galera per questo, capito? Ma nemmeno che si inizi un'indagine, però, nemmeno che si inizi un'indagine. Beh, ma sì, su un presunto reato. Abbiamo perso un sacco di tempo in quella roba lì. Il fatto è che da un lato lui, che è una persona che ha dimostrato nel lavoro, nel business, di essere molto in gamba, tra gli italiani migliori in assoluto, dovrebbe capire dopo 20 anni che ci prova che in politica non ha funzionato, no? Uno ci prova e non ce la fa, se non ce la fa cambia, no? E lui che è un imprenditore dovrebbe capirlo, noi imprenditori lo sappiamo, perché quando sbagliamo chiudiamo. Ma infatti l'ha capito lui, tant'è che ha stretto una specie di patto con Renzi. Ma Renzi ha fatto bene a continuare ad avere fiducia nel patto con Berlusconi? Ma Renzi, nel momento in cui deve occuparsi di fare una legge elettorale, di cambiare anche la Costituzione, per quanto riguarda il Senato è giusto che ascolti tutti, senta il parere di tutti e trova e provi a gestire l'imperfezione, quindi accettare dei compromessi. Però gli dicono, lo rimproverano, fa anche un procuratore a Palermo che lei sicuramente conosce, che si chiama Di Matteo, stai facendo dei patti con un condannato. Cioè, ma no. Stupidaggini anche queste. Ma dei patti con un partito che ha preso 7 milioni e 300 mila voti allora, adesso ne ha preso un po' meno, ma sono 7 milioni e 300 mila italiani che poi questi qui vogliono farsi rappresentare da Berlusconi, è un fatto loro, ma con questi 7 milioni e 300 mila italiani bisogna parlare se devi cambiare la Costituzione. Dunque Renzi fa bene anche a scendere a patti con un condannato. Va bene a parlare con tutti, come parla con i grillini, come parla con la Lega, come parla con tutti, ci mancherebbe altro, bisogna cambiare la Costituzione, bisogna fare questa legge elettorale, è fondamentale ascoltare il parere di tutti e in questo caso, quindi legge tombale, costituzionale, elettorale, trovare un compromesso su cui ci sia più favore possibile. Però Farinetti, è vero che al di là della questione Berlusconi ci sono accuse che vengono in particolare dal Fatto, per esempio, che ha promosso addirittura una raccolta di firme su una riforma del Senato insieme a quella elettorale che sarebbe una specie di tagliola per la Costituzione, per la libertà, la dittatura del governo, eccetera eccetera. Per me sono cazzate, lo dico alla Cruciani, lo dico alla Zanzara eccetera, in maniera molto chiara. Anche per lei è così? Io non ho il suo linguaggio, Cruciani, ma come sa nella sostanza la penso esattamente. Cioè, tutta tua... il problema è questo: noi umani siamo esseri imperfetti, no? Dobbiamo gestire l'imperfezione, cercare di fare il più possibile, cercando di avanzare, a cercare un qualcosa che sia il meno imperfetto possibile. Sì. E mentre avanzi, trovi questi campioni della perfezione, sì, che ti sbattono in faccia la loro idea di perfezione, che una è da destra, una è da sinistra, una è da sopra, una è da sotto, sicuri di non sbagliare. Sì. E tu, se vuoi governare un paese, devi gestire queste differenti idee di perfezione. Li riconosci perché sono immobili, loro non si muovono, stanno fermi sulla loro idea, non hanno dubbi. Per esempio questa minoranza del PD, lei dice, per esempio questa. Ma non solo, anche quelli che accusano che sia anticostituzionale, eccetera, cioè, ma in generale i grillini, c'è cioè molti, ma non tutti. È un problema umano ed è giusto che anche all'interno di un partito come il PD, così grande, ci sia della gente che alla fine bisogna decidere. E lo dica. Il problema è poi trovare un punto d'incontro, ma secondo me lo faranno. Però scusi, faranno. Farinetti, vogliamo dire una cosa chiara: queste critiche che vengono fatte a Renzi di andare verso una dittatura, adesso io ho detto sono cazzate, lei come le definisce? Minchia. Stupidaggini totali. Boiate, sì. Anzi, boiate. Sì, è come dirlo, adesso lui non è di quella statura lì, ma voglio dire, Nelson Mandela ha segnato una meravigliosa dittatura democratica. Cioè? Mujica in Parlamento in Uruguay fa uguale. Sono persone che decidono, cercano di aggiustare una situazione dolorosa di un paese prendendo delle decisioni. Il nostro problema non è il Senato... se è qui e cos'ha, il nostro problema è che c'è il 50% di disoccupazione giovanile, quello... che c'è le esportazioni che non montano, quello da quel punto di vista, però qualche provvedimento serio non si vede da Renzi da quel punto di vista. Ma perché però bisogna toglierci dalle palle velocemente sta roba della legge elettorale del Senato, che tutti noi sappiamo che alla fine non è, può essere il problema un alibi, fondamentale però è rompere il tuo bicameralismo perfetto per acquisire più velocità. Che cosa stai cercando di fare, Matteo? Cercare di dare velocità a questo paese nelle decisioni. Ma avrà sbagliato in qualcosa in questi mesi, ha promesso troppo. Ma avrà anche sbagliato, ma tutti sbagliamo. Lei quante ne ha sbagliate, Io sapesse più di lei. Quelle che lei immagini doppie le mie. Ho capito, pure se 80 euro sembravano la panacea, molte statistiche dicono che non hanno portato a niente dal punto di vista dei consumi. Ma quello non è mica colpa di Matteo, meno male che l'ha fatto. Il problema è che l'Italia è ferma. Stanno arrivando al pettine i nodi di 20 anni di follia. Oggi ogni famiglia ha un disoccupato dentro, un figlio che non lavora, deve mantenersi. È logico che consuma di meno e continueremo a consumare di meno in un paese che non diminuisce. Cioè, ragazzi, noi dobbiamo, per esempio, abolire le regioni autonome. Cosa ne pensa Cruciani, lei? Ma abolirle domani mattina. Allora, vuole sapere rendere tutti i contratti flessibili, licenziabilità totale per tutti, questo bisogna fare. Vuole sapere un numero. Lei non lo vuole dire questo, non lo vuole dire Farinetti questo. Ma già si può licenziare, non è quello. Vabbè. Un numero impressionante qual è? Qual è il numero impressionante, Farinetti? Un numero impressionante che leggevo oggi. Le Canarie fanno 78 milioni di notti di turisti, le Baleari ne fanno 55, la Sicilia ne fa 6. Sì, vabbè, quello figurati. E poi sono andato a vedere quanti forestali ci sono nelle Canarie, sa quanti ce n'è? 99. No, io avevo detto 10. Lei sa quanti ce n'è in Sicilia, no? Sì, 26.000. Migliaia. Allora, e di fronte a queste robe, adesso dobbiamo fermarci un attimo, respirare forte e incominciare a prendere delle decisioni abbastanza velocemente. Abbiamo un sito italy.it che dovrebbe essere quello che richiama i turisti. Ma non ci vuole un sito per pena. Ma non ci vuole nemmeno un sito per richiamare. 10 milioni di euro, Non ci vuole manco un sito. Senta una cosa, ma a proposito, poi la lascio. Dei magistrati, non ci vorrebbe prima o poi, cioè, questi che sbagliano alla fine non devono pagare in qualche modo? Secondo me sulle cose gravi e grandi, per esempio alla tortora, per capirci, sì. Su Berlusconi no, per esempio. Non dobbiamo metterla sulle cose piccole e cose, perché cioè dobbiamo, come per gli altri poteri, quando si verifica che c'è stata come si dice, una negligenza, una grave negligenza. No, cioè. Sì, quando si esagera nel puntare su una roba anche quando si capisce che poi non funziona. Sì, sì. Se si verifica quello, sì, come esiste per i parlamentari, no? Per i parlamentari. che cade l'immunità se si verifica che questi hanno proprio... Allora le faccio sentire una cosa di Matteo Renzi, di cui lei comunque resta sostenitore eccetera, che è il suo inglese, l'inglese di... è una cosa virale che c'è stata negli ultimi giorni sulla rete, un po' dappertutto eccetera eccetera. Adesso fra poco facciamo partire una musica, poi la mettiamo, aspetta. We don't need no education. We don't need no thought control. Eccolo, He was a worker, so he invented the because in the field, in the structure, in the marketing, in the commercial, in the lessons, in the debate. But for country, this is also the representation. My mother, the invented for crying, is in the TV one, is in the TV one. In the feeling, in the she found the Berlin walls, in the destroyed, in the genius, in the California, to speaking at the ball, in the 80. Now is the time to eat the lunch, because the idea without marketing, a commercial structure, ovviamente questo qua era un montaggio, ma non direbbe a Renzi di migliorare un po' il suo inglese invece di avventurarsi, Farinetti? Lo conosco molto bene l'inglese di Renzi, lo giudico buono, sicuramente al di sopra della media di tutti i politici che l'hanno preceduto. Il mio inglese è la metà del suo, però io col mio inglese ho aperto Los Angeles, apro Los Angeles adesso, ho aperto New York, ho aperto Chicago. Cioè non è quello che conta, dice lei. Business. L'inglese di Matteo è più che sufficiente per farsi capire. Per fare il premier, diciamo, per presentarsi, certo. Per presentarsi ai meeting. Va bene, grazie. Per far bella figura. Grazie, a presto, bene, ciao, ciao. Ciao. Avete rotto il cazzo, parlate sempre di froci, di razzi. Io voglio che parlate di cose interessanti. Vi voglio sentire un'altra volta i bevitori di piscio. Amici miei, siamo al top, ragazzi. A proposito di Rom, caro Parenzo, ti leggo alcune notizie uscite negli ultimi giorni, al di là di questo assedio alle biglietterie della metropolitana di Roma, a cui ho assistito anch'io, vergognoso, certo, con queste donne barbute che assediavano ogni... Stai tranquillo, donne barbute che assediavano le macchinette, e io sinceramente voglio andare a comprare il biglietto della metropolitana senza avere le donne barbute che mi rompono i coglioni. E praticamente turisti, donne, anziani sono costretti a pagare il pizzo per fare il semplice biglietto della metropolitana. Questo non lo dico io, lo scrivono tutti i giornali romani. Biglietterie della metro prese d'assalto da queste signore con color oliva in faccia, con le gonne larghe, lunghe, la mano proiettata in avanti, questa mano un po' lurida proiettata in avanti a chiedere denaro, magari a frugare nella tua tasca, no? No, ma non ti scandalizzare, questo succede. Mi fa schifo come descrivi questa roba. Ah, ti voglio dire una cosa. È orripilante. Alzate il volume di quei, se no non si sente una mazza. Il volume di Parenzo. Quella così. Allora, c'è un paese che forse tu conosci che si chiama Vigo d'Arzere. Ma come no? È in provincia di Padova, è proprio una frazione di Padova. Ecco, benissimo, in questa frazione di Padova, Monte Vigo d'Arzere, un campo nomadi è stato messo sotto sequestro, un campo nomadi. Perché praticamente da 10 anni i proprietari di questo campo nomadi erano di fatto degli evasori, cioè il terreno era stato pagato con soldi di provenienza illecita. Ma è benissimo. Adesso ti voglio far ascoltare un signore. Ma chi è che difende l'illegalità? No, ma io non ti voglio. Ma io non ho detto nulla, io ti sto dicendo, ti sto raccontando dei fatti. Ho detto che mi fa un po' schifo il modo come descrivi queste donne. Vabbè, il mio modo ti fa schifo, è pazienza. Senti questo signore che si chiama Sartana Alilovic. È il capo del campo nomadi La Barbuta di Roma. Senti come si rivolge a un signore che è il presidente di un'associazione, eccetera, semplicemente perché questo signore ha detto che mettere su questo campo nomadi a Roma è costato un sacco di soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Senti come si rivolge a questo signore. Io mi autodenuncio qui, se Carlo ancora parla ai riunioni, ai problemi nostri, io lo metto in coma. Sai cosa significa in coma? Io sono papà di 19 figli e ho due mogli. Io vado in testa alta a Ciampino, col sindaco che era prima, ora sta in consigliere comunale, io ho un terreno lì, io voglio vivere in santa pace. E qui io lo ammetto e mi autodenuncio. Se ancora Carlo parla della barbuta, io lo metto in coma, mi autodenuncio, qui ci sta pure la polizia. Io non c'ho niente da parlare, grazie e buonasera. Cioè, ma tu ti rendi conto o no di quello che succede? Ma quello... cosa era? Una conferenza stampa? Non lo so, era una riunione in una zona, in una... No, in... ma sembra che anche il Ron parla come nelle conferenze stampa, grazie. No, ma non è il problema, non è questo, cioè, ha detto questo... Ma lo ma... chiaro che ha detto delle cose aberranti. Ma non ovvio. È che ha detto delle cose aberranti, questi qua... poi è uscito da quella stanza scortato da quattro come se fossero delle guardie del corpo. Un signore con la panza enorme, con l'orecchino, no, un orecchino d'oro lì, così, una cosa orrenda, terribile, una cosa terribile... esteticamente terribile e soprattutto nella sostanza terribile. Ma questa gente perché circola? Perché è circolante? Uno che minaccia, lo mando in coma davanti a tutti, ancora è circolante. Ma cose incredibili, cose da pazzi. Poi scusa, non ho capito bene, due mogli e 19 figli, a parte il fatto 19 figli, vabbè. Uno dice, vabbè, 19 figli, uno può fare quello che vuole nella vita. Ma come fa? 19 figli e due mogli. Ma che vuol dire? Che siamo a livello di no? Cioè, vabbè, due mogli due mogli penso uno dopo l'altra, perché noi insieme, credo. Non è ammessa la poligamia in Italia, eh? 19 figli e due mogli. Vabbè, tutto normale? C'è qualcosa da dire anche sui signori grillini, alcuni deputati. Innanzitutto il nostro amico Sibilia, Carlo Sibilia, deputato dei 5 Stelle. Il quale ha scritto: oggi si festeggia, era il 20 luglio, se non sbaglio, ieri. O il 19, vabbè, insomma è uguale. Oggi si festeggia l'anniversario dello sbarco sulla Luna. Dopo 43 anni ancora nessuno se la sente di dire che era una farsa. 20 luglio, 69. A parte che non erano 43 anni, ma erano 45, insomma. A parte questo, il grande complottismo sulla Luna. Cioè... Sibilia è uno di quelli che ti dice che tutto quello che abbiamo visto, no? Armi, tutta una buffonata, una cazzata, tutto un grande complotto, non è vero niente. Cioè. Sai che c'è tutta una storia per cui non è vero quell'atterraggio lì sulla Luna? Ma quando fanno queste cose qua, sono anche simpatici per i cigrillini. E quando si occupano di riforme, che è un problema. No, ma lascia perdere, adesso ti faccio sentire una cosa su cui invece sarai d'accordo. No, ti faccio sentire, no, te la leggo. Una deputata dei 5 Stelle, insieme a suoi colleghi, si chiama Maria Lucia Lorefice. Ha presentato Lorefice. Un'interrogazione, la signora Lorefice, perché nei campi degli immigrati, nei centri degli immigrati, si è dato il cibo adatto, cioè non va bene la pasta, per esempio, sì, ti giuro, è scritto, bravissimi. bensì il riso. No, ma non solo, brava, aspetta. Cioè, leggi, vai avanti. No, bisogna fare dei menù speciali, sia il riso e non la pasta, bisogna fare la distribuzione del cibo praticamente in alcuni orari. In alcuni orari che non coincidano con il Ramadan, che non coincidono con la preghiera. Tu capito? Ma stiamo scherzando o stiamo parlando sul serio? Esattamente. Cioè la pasta noe sia riso, menù speciali per i musulmani nei centri per gli immigrati? Ma certo che sì. E che cosa ancora? Che cosa ancora? Volete anche, che ne so, qualche prostituta? Volete anche il caffè? Volete cosa dici? Dai, su, dai. Allora tu devi sapere. Ma guarda che sei veramente, ormai sei impazzito. Ma cosa sei, leghista? Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Non possono mangiare, ad esempio, la nostra carne. Non possono mangiare, ad esempio, la carne o il maiale perché sono musulmani. Ma e quindi non si sfamano. Ma cosa, ma dai? Ma tu sei matto completo. Ma questi hanno una fame, ma che dici? Dai, smettila. Ma per motivi religiosi non possono mangiare. E che allora cambiamo il menù. Cambiamo il menù. cambiamo il menù, portiamogli anche in orari più consoni, dice questa deputata. No, portiamogli anche in orari, distribuiamo gli orari. E beh, certo, allora portiamolo dopo nei centri di immigrati. Cioè, questi arrivano clandestini in Italia. In più, noi dobbiamo adattarci al loro cibo e portare da mangiare quando vogliono loro. Ma dico, ma siamo pazzi o no? Ma stai passando a Radio Padania? Dai, su, ma questo è esagerato, dai, so. Ma cos'è esagerato? Allora, se arriva una persona, se arriva una persona da un altro paese che è musulmano e tu, siccome non lo sai purtroppo, i musulmani non mangiano il maiale, non possono bere gli alcolici, ad esempio. Se tra questi bambini, queste famiglie, che quelle che riescono ad arrivare, quelli che non muoiono in mare, sì, per vostra gioia, quelli che non muoiono in mare, quelli che faticosamente riescono ad arrivare, se tu gli dai anche dei cibi che non sono adatti, perché loro per tradizione non mangiano, so che tu te li porti, dai, tutto, forza, vai. E allora è giusto dargli il menù come, come il è, menù speciale, la sua tradizione. Beh, certo. Ma non è speciale, lo fanno già negli asili. Negli asili, giustamente, negli asili, quando mia figlia adesso va alle scuole elementari, alla scuola elementare di mia figlia ci sono molti immigrati e hanno fatto giustamente dei menù speciali. Ma quella è diversa la cosa, che c'entra? No, caro, mia figlia stessa, visto che tu mi metti sempre in ballo la mia figlia stessa ha un menù speciale, perché siccome è di religione ebraica. Ma quello che c'entra, non un altro discorso. Il maiale, no, adesso insulta anche questo. Ma chi ha detto? Siccome è di religione ebraica e non mangia il maiale, mia figlia non è che ha un menù speciale, non è che le portano, le portano il pâté de foie gras. No, le portano il formaggio, hai capito? Vabbè. Invece del maiale, perché questo si chiama rispetto. Va bene, un'altra cosa leghista, un'altra follia leghista di questi giorni porta il nome di Tiziana Ciprini. Allora, questa signora Tiziana Ciprini cosa ha fatto in sostanza? Innanzitutto sulla questione del cognome della madre dice che è un complotto del nuovo ordine mondiale. Ti giuro, un complotto del nuovo ordine mondiale, in questo caso incarnato dall'Europa, che vuole in sostanza annacquare la cultura patriarcale per sostituirla con un nuovo paradigma non meglio specificato. Tiziana Ciprini, capito? Un nuovo ordine mondiale. E poi ha presentato, cioè con tutti i problemi che abbiamo, una denuncia alla Procura di Roma, ti giuro, una settimana fa ha portato una denuncia alla Procura di Roma del Comitato del Popolo Sovrano, una denuncia a carico di presunti cospiratori del Bilderberg, tra cui Monti, Draghi, Van Rompuy, Barroso, per violazione della legge Anselmi sull'associazionismo. E io dico, se c'è una procura, se c'è una procura che apre un fascicolo, apre un'inchiesta per violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete a carico di Monti, Draghi, Van Rompuy, Barroso, questo magistrato è da rinchiudere, da rinchiudere. Il gruppo Bilderberg è un governo ombra mondiale che decide in totale segreto le sorti dei paesi, commissariandone la sovranità e pianificando eventi che successivamente appariranno come casuali. Le consorterie affaristico-massoniche che vi partecipano sono sempre le stesse. Se gli eredi delle famiglie più potenti del mondo, come i Rockefeller, non mancano mai, così come gli uomini più potenti dell'alta finanza speculativa, delle banche centrali, delle multinazionali, dei governi. Allora andiamo. Beh, questa fa il paio con l'amico Brunetta, l'amico Renatino Brunetta, che chiede una commissione d'inchiesta e ipotizza anche reati sulla questione del complotto. Non dire cazzate, è dai. Simile. La commissione d'inchiesta è una cazzata. Amico mio, la commissione d'inchiesta è una cazzata, l'ho detto mille volte, ma non è la stessa cosa del Bilderberg, dai, su, non è la stessa cosa. Stanno preparando una denuncia parlare del complotto internazionale, il fatto che ho ci fosse. Che è simile, le due cose sono ma simili. Non è la stessa cosa, dai. Edoardo D'Asti, e non è la stessa cosa, comunque se ne può parlare. Ma perché non è la stessa cosa? Parlare del Bilderberg o del fatto che ci fossero cancellerie europee interessate alla caduta di Berlusconi, non è la stessa cosa. E sarebbe un reato? Ma non ho detto che è un reato, è una stupidaggine presentare una denuncia allora, su questo. Come è una stupidaggine l'altra, certo. E allora è uguale, vedi che mi dai ma che c'entra? Non è che tutte le cose uguali sono simili tra di loro. No, Edoardo D'Asti, dai. C'è una lucida. Sì, vabbè. Edoardo, io vai. Volevo dire che voi siete l'esempio dell'aspetto deteriore della spettacolarizzazione dell'informazione. Sì. Perché parlate sempre di notizie che non hanno alcun senso. Sì, invece è arrivato lui a darci lezioni. Avanti, Edoardo, forza, avanti con la lezione. Certo, avanti. Perché? È arrivato certo, lui, perché? Bene, professore. Edoardo da Asti a dire come dobbiamo fare questo mestiere. Sono qui tutto orecchio, amico mio. Sto ascoltando la tua lezione, sono qui davvero tutto orecchio, sono sincero. Dimmi, certo, dimmi. Ma per esempio Parenzo sì. È una figura che rappresenta la commedia dell'arte. Ma lei, questo è ottimo però, questo non è un'accusa. Beh, questo è bellissimo. Ma, vedi, allora, il punto è che una persona di buon senso, moderata, sì. Quando torna a casa vorrebbe magari sentire una trasmissione un po' più sensata. Cosa ha detto, scusi? Una persona di buon senso, moderata, vorrebbe ascoltare... Una trasmissione più interessante della vostra. A parte lei ha detto una cosa interessante o non interessante, quello è un altro discorso rispetto alla persona moderata. Cosa c'entra? Per esempio, caso delle ultime elezioni, perché il PD ha preso il 40%? Sì. Lei è un po' indietro come notizie, però, il 40,8% è successo il 25 di maggio, siamo quasi due mesi fa e siamo al 21 di luglio. Se mi lasci finire. Ho capito. Era l'unico partito che una persona di buon senso poteva votare. Sì, vabbè, questo secondo lei, ovviamente. Ma certo, ma secondo lei non è che lei ha le tavole della legge, no? Allora il fatto che la destra non esista più perché per colpa di Berlusconi. Sì, ma scusi, ma io non ho capito, ma lei di cosa sta parlando? Sta facendo la sua analisi politica? Va bene, giustissimo, va benissimo. Cosa c'entra con la trasmissione? Cosa c'entra con la trasmissione l'analisi politica di quello che è successo il 25 maggio? Cioè, mi spieghi? No, io stavo facendo quell'esempio per dirti che chi volesse sentire una trasmissione che non sia da telegiornale, che già sento, in cui si faccia un po' di analisi politica e si commenti qualcosa, non c'è in questa fascia oraria nessuna trasmissione, c'è solo la vostra. Voi andate a cercare soltanto delle notizie spiritose, quelle che dicono i DJ al mattino. Sì. Invece il mio consiglio, essendo comunque Radio 24, una trasmissione che... Quale sarebbe la notizia spiritosa che dicono i DJ al mattino? Per esempio, vi faccio un esempio. Tutte quelle che hai detto fino adesso. Sì, quali hai per esempio? Quali? Dimmi quali. Dimmi oggi. Quali. Dimmi quali. Ma continui ad alimentare tutte le notizie che vengono dai grillini. Sebbene tu all'inizio dicesti che era una buona cosa e le avevi pure votate. Però adesso, per esempio, leggi delle notizie che è chiaro che Sibilla nessuno se lo fila se non lo fili tu. Sono dei mitomani, li lasci perdere. Delle persone sensate manco ne parlano, magari potevi parlare come sta andando la riforma. Io non ho capito però quello che lei ha detto all'inizio, cioè una persona moderata e di buon senso. Dio, che fatica, una ragazzi. Persona moderata e di buon senso vorrebbe... Ma tu lo sai, vorrebbe sentire altro, vabbè, questo sono affari suoi, quello che pensa perché Edoardo. Lei, ma già uno si presenta come persona moderata e di buon senso, vabbè, ognuno nella vita... Io potrei dire, cosa vuol dire moderato? Vabbè, ma ognuno nella vita si presenta come si vuole presentare, lui si presenta come persona moderata e di buon senso, e vabbè, ognuno ha la sua fissazione. Scusi, signor Edoardo D'Asti, e tu sai Edoardo che su questa trasmissione sono state scritte tesi di laurea? Lo sai o non lo sai? Ma certo, ma anche su Gabriele Paolini quello che faceva. Assolutamente, tu lo sai che sono state scritte tesi di laurea, ma non una, 10 tesi di laurea. Hai capito? Tu capisci che non c'è la questione, tu stai ponendo una questione, le persone moderate di... Ma che cosa cazzo me ne frega a me di quello che pensano le persone moderate di buon senso? Devo fare uno show alla radio, non devo seguire te che pensi alle persone moderate di buon senso. Ma è sbagliato che tu voglia fare uno show con l'informazione. È sbagliato chi lo dice, lo dici tu. Ma chi lo dice? Sei pazzo! Io so anche perfino il cagnolino. Pronto. Ministro? Sì, pronto. Chi è? Ministro Cancellieri? Sì, sono io. Che sono parla? Cruciani, buonasera. Guardi, non sono stata io, glielo giuro. Ma su non che cosa, scusi, io. Ma di che parla? Senta, Cruciani, io so che lei ha la perenne ricerca di scoop. ma le posso giurare su quanto mio di caro, sui soldi, che non sono stata io. Oh. Ma scusa, a parte che lei ha detto su quanto più di caro i soldi, vabbè, lascia, ma non capisco, scusa, ma di che sta parlando? Non ho ancora iniziato a parlare. Mi ascolti, a poche cose io tengo, ma l'onore è una cosa sacra. Vabbè. Le giuro che non sono stata io, se glielo dico. Ma fare cosa? Senta, Cruciani, giochiamo a carte scoperte. Sì. Lei è convinto che sia stata io a chiamare i giudici che hanno assolto Berlusconi. Ma guardi, sono già mesi e mesi che non faccio più questo servizio, pur essendo ancora molto richiesto, devo dire. Però ci vogliono determinati requisiti che purtroppo non ho più. E poi neppure lo conosco, questo giudice. No, però scusi un attimo, io l'ho chiamata per sapere come stava. Lei la prima cosa che ha fatto, Parezzo, è stata dirmi difendersi. Non ho chiamato io i giudici. Aspetti, Cruciani. È inammissibile accusarmi e vergognoso. Ma nessuno l'ha accusato di aver chiamato i giudici per far assolvere Berlusconi, ministro Cancellieri. No. E perché mi ha chiamato? Ma ho chiamato per capire come stava, scusi. Ma io sto bene, grazie. Però insomma, mi telefono, mi prende di soprassalto, abbia pazienza. Ma lo conosce i tre giudici? Ma figuriamoci, io proprio non lo conosco, assolutamente. No, tre giudici. Vabbè, chi se ne frega. Ma si tratta sicuramente di brave persone. La soluzione di Berlusconi, dato che ci siamo, ormai lei ha iniziato questo argomento, io volevo semplicemente sapere come andava il ristorante, come stava lei, eccetera. Ma la soluzione di Berlusconi è giusta o no? No, certo che è giusta la soluzione. Ma come è giusta? Ho tanto lavorato per svuotare le carceri e che adesso le vogliamo riempire? Guardi, sto piangendo. Ma come? È commossa? Di cosa? No, ma che è commossa? Sto tritando una cipolla perché sto preparando del fegato alla veneziana. Magari vuole favorire, no, venire a trovarmi. No, è pesantissimo. Ma quello preparo io, non è pesantissimo. Nel mio ristorante è pesantissimo, ministro Cancellieri. No, va benissimo, poi faccio una cosa delicata, guardi, una meraviglia, è una poesia. Ma la Roma? La Roma? Può venire pure Parenzo, guardi. No, Parenzo è a Roma, lui è. Ma la Roma che dice? No, a Nettuno. È partita per l'America, per la tournée in America la Roma, ministro. Sì, so che ci sta la Roma, il Manchester United, ci sta pure l'Inter, ci stanno tante squadre. Ma le piacciono i nuovi acquisti? Ma com'è? Com'era l'inno della Roma? Com'era l'inno? Roma. No, non lo sa. Senta, io magari le parlo il fegato alla veneziana, ma voi mi state a buttare giù del vino, qualcosa, non lo so. No, che avete assimilato. No, guardi, i turbe, ragazzi, i turbe. Con i turbe mettiamo il turbo, sarà una grandissima Roma. Che meraviglia, ci ha pregusto questa stagione trionfante, una cavalcata delle Valchirie, guardi, una meraviglia. Ma come fa la canzone? Beh, come fa? È sempre quella. E Luciani, Roma. Vabbè, certo che io preferisco cucinare. Lo sapevo. Dai. È successo un casino con Antinori, Che ha fatto? È successo un casino con Antinori, sto leggendo qualche parte, gravidanza eterologa, nessuna gravidanza nella clinica Antinori. E quanto emergerebbe dall'indagine dei NAS? Nessuna non parlare di questo. No, per carità. Che abbiamo fatto. Chiamalo un attimo. No, oggi no, perché c'è stato un casino con l'inchiesta, domani magari. Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma ti faccio vedere, sei un mascar, non sei lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. No. Marco, provincia di Genova. Carissimo Cruciani. Vai. Ascoltate, io ho chiamato perché volevo dire che volevo fare i complimenti per il contratto di Parenzo. Sì, quale contratto? Contratto di lavoro. Lui ha un contratto meraviglioso per cui può fare assolutamente quello che vuole. Assolutamente, questo è vero, amico mio. Chi l'ha fatto, chi l'ha redatto per lui e chi l'ha firmato, è un genio, sì, è bene, hai ragione. Fa quello che vuole. Non c'è niente da dire. Cioè, può stare sui traghetti, gli orari che vuole, tornare, fare. Sono numero uno, da questo punto di vista lei ha ragione, è numero uno, sì, è bene. stazione, sono sul tram, non si sente niente, vabbè. È uguale, sì. E io pago, canto, e io pago. Vabbè, io comunque lasciamo perdere. D'altro canto però bisogna dire che il prossimo anno si avvicina, quindi io darei qualche piccolo consiglio, ma assolutamente perché positivo. Non ho capito perché. Perché ti incazzi, perché ti fa incazzare, ti fa incazzare, ti fa incazzare, e mi fa incazzare, perché quando non si sente poi la radio si perde, cioè il come dici giustamente tu, il momento, il chi, insomma, si perde per strada. Io dico una cosa, ma con quello che guadagna, con quello che si può permettere. No, questo da questo punto di vista, guarda, al di là degli spostamenti, eccetera. Allora, al di là degli spostamenti, io è mesi e mesi che dico di migliorare qui, in questo settore tecnico, qui dentro, dico di migliorare le comunicazioni di parenti. Dotandolo di mezzi attrezzati, di mezzi adeguati. È logico, ma non ci vuole una scelta, cioè nel senso è sufficiente che lui garantisca già nel contratto che a quell'ora, da quell'ora a quell'ora lui in questi posti si può connettere, lui ci sono ogni posto che dove si connette, lui guarda dove si si sapesse il posto, ovviamente bisogna saperlo prima il posto. Comunque, no, ma mettiamo che lui garantisca un 80% di presenza senza rompere le palle, e poi comunque ovunque vada si porta 4 SIM telefoniche dei 4 principali gestori, e uno prenderà, cazzo, ci sono dei software che garantiscono, che ti fanno vedere quanto campo c'è in decibel, e uno vabbè, adesso ho capito bene il problema, ho capito benissimo, grazie Marco. Se lo facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, Figuriamoci a me. Antonio provincia di Como. Sì? Dimmi, dai. Parlo con la valle dei coglioni? Sì, però togli viva voce o quello che è, dai. Sono stato un'ora in attesa. No, fai bene, però adesso togliamo. Volevo semplicemente farvi complimenti, perché sono anche io caduto in questa trappola e non posso fare a meno di ascoltare la valle dei coglioni, nonché il re Parenzo in assoluto. Poi ogni tanto te, Cruciani, gli vai a ruota, sì. Vai a podio. Ok, Parenzo, io voglio dire una cosa sola, signore lì, penso che abbia detto se ha un contratto, una cosa. Benvenuto, io penso, benvenuto nella terra dei coglioni, benvenuto amico mio. Ma il re anche quest'anno a podio, ma il re indiscusso è lei, proprio zero, a lei dico delle Cruciani del tubo che mi è un po' più simpatico. Volevo solo dire una cosa, matrimonio gay, rom, tutte le puttanate che nel moderato che è lei, Parenzo. Voglio dire solo una cosa, una settimana a testa a casa sua di ospitare quelle categorie qua, compreso i ricchioni, queste sono categorie, perché spiego una cosa sola. Scusi, che c'entrano i ricchioni? Che c'entrano i ricchioni, scusi. Adesso spiego una cosa, perché tutti qua là, su, giù, matrimoni gay, la coppia di fatto, qui e là. Io, Cruciani e Parenzo, siamo al mondo perché un uomo e una donna ci ha messo ma che c'entra, scusa? Ma come che c'entra? Ma Cruciani, adesso va bene tutto. Nel suo caso Parenzo probabilmente c'è anche un extraterrestre di mezzo, perché cazzo, forse non andati al cinema nel tuo caso quella sera, forse non avremmo sentito la mancanza, guarda, un cinema in più, una serata ti sta teatro. Dicendo Antonio che era meglio se non nascevi, no, capito? No, ho detto magari era meglio se non venivi al mondo, sta dicendo Parenzo. No ma ascolta, il problema di fatto è che ci esistono personaggi, cazzo, che sono, gli danno anche il microfono in mano, mi dispiace perché ho parlato, ma no, c'è anche un palinsesto che magari si vuole, lei chiama anche il pomeriggio delle stronzate che dovrà dire poi alla sera, o dovrà rispondere, lo ingaggiate, ma nel mio caso può anche essere che si sono sbagliati, nel suo caso c'è stato un extraterrestre, perché cazzo io non capisco, cioè proprio la vergogna totale. Ma un po' di quella cosa, un po' di quella fermezza, certo, allora, Termine è un grande, ha detto, cazzo, hanno rotto i coglioni tutti, fuori dalle palle, un uomo e una donna hanno messo al mondo un altro essere umano, il resto è tutta merda, poi se la vogliamo accettare o meno. Allora ragazzi, siamo quasi in conclusione, ma voglio chiudere. Ormai è tutto degradato. Voglio chiudere con questi signori, Parenzo, di cui parleremo molto probabilmente domani. Sì. C'è un gruppo che si chiama stopmasturbationnow.org. Ti giuro, stopmasturbationnow.org. Genitori vendono questo prodotto qui. Genitori, siete terrorizzati dall'idea che il vostro bambino possa masturbarsi? La sola idea che possa praticare autoerotismo in tenerissima età non vi fa dormire la notte? Immaginare che possa provare piacere arrivando a toccarsi le parti intime vi provoca disagio e imbarazzo? State tranquilli, perché tutti i vostri problemi potrebbero essere risolti. Come? Basta comprare l'anti-masturbation cross, che sarebbe la croce anti-masturbazione, ti giuro, così. La croce anti, cioè immobilizza il bambino sopra i 5 anni, lo immobilizza, una specie di... Ti giuro, aspetta. Infatti, aspetta. Progettato da ingegneri per il movimento religioso Stop Masturbation Now, si tratta di un insieme di fasciature che avvolgono il bambino mentre è sdraiato sul letto o mentre dorme, ti giuro, puoi andare a vedere online, o mentre dorme, bloccando braccia, gambe e testa, e dunque è impossibilitato a toccarsi. Anti-masturbation cross, adatto per i bambini nella fascia d'età compresa tra i 5 e i 16 anni, e in vendita, perché poi non è che so coglioni, a $199,99, $200, circa €150. D'accordo! A domani! D'accordo! Io c'ho anche perfino il cagnolino. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Pasquale Squitieri, buonasera. Come andiamo? Allora? Andiamo bene. Il mio fustigatore. Tutti ricordano quando mi disse: ma come? Non conosci, che cazzo era quello, Pasquale? Umberto D. E giù botte. Me l'hanno ricordato per un anno. Ma come? Non sai cos'è Umberto D? Mamma mia. Ma la Santa Chiesa, sentito cosa dice? Vuole dare un grande messaggio alle donne giovani e vecchie. Non darla. Perché si gode molto di più a non darla. Ma quello, il problema non è darla, il problema è prenderlo. Cioè, in che senso, scusa Pasquale? Se non lo prendi non cresci come donna. Io ho 3 figlie femmine, sì. E quando avevano 10, 12 anni, 13 anni, cioè ancora vergini siete? Ma insomma è una vergogna. Ma scusa Pasquale, però avevano 10, 13 anni. 10, 13, 12, sì. E che gli hai detto? Che erano ancora vergini? Che era una disgustosa questa cosa, che fossero ancora vergini. Ma no, ma questa è terrificante, erano troppo piccole, scusa. Ma no, quale piccole? Tu prendi una ragazza di 12-13 anni, non è più come all'epoca mia, che sono vecchio, rincoglionito. Oggi una ragazzina di 12-13 anni ne sa più di chiunque altro, con tutto quello che ha a disposizione, questo, di informazione. Questo può darsi, però non è che mamma uno dice... Mamma mia, fanno paura. Ma non è che uno dice alle proprie figlie perché siete ancora vergini. Così smitizzi, capisci, amico mio? Così è questa la cosa. Io guarda, dai, tu, ho una figlia di 8 anni e mezzo, adesso non lo so, però non è che quando arriva a 10 anni dico scusa, perché ancora... No, non così. E come, scusa, come gli hai detto tu? Il discorso sul sesso, è chiaro. Ho capito, io adesso ho banalizzato. Ma no, a 10 anni no, a 12 anni no. Ma dovrebbero farlo a scuola, perché la donna cresce molto più in fretta di noi. Cioè, tu dici, un ragazzo di 10 anni è un coglione. Quello è vero. Ma una ragazzina di 10 anni ti fa girare come vuole. Quello è vero. Tu sei mai stato con una minorenne? E come no? Cioè, con una... Insomma, minorenne, certo. Minorenne, ma... Io ho sposato una minorenne nel 1965. Sì, ma con una minorenne consenziente, nel senso che... È certo che è consenziente, era pulizia. Ma quanti anni aveva? 17. 17, ma è una più piccola, non sei mai stato? Ma stava con me da quando aveva 13. Cioè tu sei stato con lei per la prima volta quando lei ne aveva 13? Sì. Cioè tu hai fatto l'amore con questa che aveva 13 anni? Esatto. Ma tu quanti ne avevi tu, scusa? 22. Ma cioè, è una specie di reato questo qua, scusa Pasquale. Ma certo, ma come certo? Ma noi viviamo nel reato, scusa, ma perché dobbiamo banalizzare tutto? È un reato, è andare contro le regole, però poi l'ho sposata, abbiamo avuto altri figli, non c'è problema. No, ho capito. È la stessa che hai sposato oppure... È la stessa che ho sposato. Vabbè, certo. Ho capito, però a 13 anni uno a 21, 22 è mezzo reato. Però tu dici, vabbè, chi se ne frega, tanto poi mi sono sposato. Appunto. Zanzara Best, il peggio dell'anno. Luciano?

dottor Cruciani, innanzitutto non mi faccia più sentire per Enzo, perché non lo posso vedere quel comunista. Buonasera. E basta con questa storia di comunista, basta. Dai. No, no, che basta. Ma non l'ha sentita adesso. Innanzitutto, ci sono tantissimi ammiratori e difensori, anche se non ne ha bisogno, di Parenzo, chiamate, sennò sembra che è un tiro al bersaglio, no, qui. Gabriella, no, smetta di dire stupidaggini, su. Ma innanzitutto, guardi, non me... poi un'altra cosa, basta con Scalfano, perché sabato sono cavoli loro, sti traditori. Vabbè, Gabriella, ma lei è peggio di Verdini, lei è peggio di Alfano, sì, di Alfano, della Santanchè. I traditori, quell'altra che ha sposato Boccia, quella che si chiama Di Girolamo, Di Girolamo, sì. Ma che c'entra? Che ha fatto? Mamma mia, che ha fatto? Che ha fatto? Perché come è entrata a Forza Italia? Come ha fatto? Per merito di Berlusconi, evidente, sì. Ah, e quell'altra Lorenzi con quel corpo macchinetta ai denti quando andava in pensione ma no. Come si permette? Ma che c'entra la macchinetta ai denti? Ma chi è lei? Però scusa Parenzo, Gabriella è una specie di Annarella di Berlusconi, cioè una specie. Certo, ma non ho capito. Se ma piace che così. Quando un uomo ha bisogno, ne stanno tutti vicino, quell'altro non facciamo. Ma guarda che qui del governo non ne possiamo più. Ma le sembra una roba, una critica da fare, quella della macchinetta ai denti? Ma su, mettitela via, è finita, mettitela via, è una nuova era sta cominciando. Mettitela via, tesoro. Addio, avanti popolo, alla riscossa, Alfano in testa. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Gabriella, ma tu la conosci Annarella? Ma lasciala perdere qua, comunista, te la vedo, gli do mettile insieme. Aspetta un attimo, aspetta. I due intellettuali, Che faccia qua, brutta comunista, che ecco qua, Angelo Pane Bianco e Galli della Loggia insieme, i nostri due, no? La io. Pane Bianco, ecco. Annarella, ecco qua. Annarella. Oh, sono Giuseppe, come stai? Ecco Pane Bianco. Aspetta. Aspetta un attimo. E che stai a fa'? Ma chi è? Sono Giuseppe Cruciani, Parenzo, ciao. Ah, Cruciani. Come stai? Io sto bene, tu? Allora? Ma che stronzo. Ma come avete fatto a abitare quel figlio della mignotta? Ma chi dici? Lo sapevo. Ah, Sgarbi dici? Ah, no. Lo so, che dobbiamo fare? Guarda che qui sta per entrare un grande ospite. Adesso aspetta, tieni un attimo là. È un ex ministro della giustizia, quindi stai attento a quello che dici. Aspetta, Annarella, scusami un attimo, tu conosci una signora che si chiama Gabriella? Gabriella chi? Gabriella, una signora. Signora Gabriella, dica qualcosa ad Annarella. Ma che gli devo dire? Sta sventata, se la vedo davanti al monte, ci voglio l'ammazzo. Gli dico tutti quei quattro peli che gli sono rimasti. Ma questa vecchia di Antonionina, che quando parla sembra che parla così. Che cos'è? Ma che ha fatto, Annarella? Basta, no, senza per niente. Chi? Ma te, a comunista, ma vattene a Rivone, a te quello stronzo del Bersani. A te sta tutta. A brutta in culo. Ma no, fermi. Ma siete matti. Siete impazziti. Siete impazziti. Mi state passando. Scusa, Gabriella, perché dici così di Annarella? Scusa, sì, che ti ha fatto? Perché io la vedo che la chiamerà in televisione davanti a Montecitorio e parla male Berlusconi. La prossima volta che la vedo gli dirò tutto qui quattro quelli che gli sono rimasti. Ma Annarella, state Annarella. Guarda che a me ma per nessuno sa. Io ho mandato all'ospedale le modelle, pensa se te ce danno a te. Vabbè, incontratevi da... Ma da che parte no, ma dai, ma mi spieghi perché veramente nelle altre radio ci sono Pane Bianco e Galli della Loggia. Mi è venuto così. E noi abbiamo la vecchia berlusconiana e la vecchia comunista. Ma è una cosa pazzesca, scusa. Mi è venuto così. Ma dai, c'ho qui, l'ospite, ex ministro della giustizia, elegantissimo, con un libro. E lo abbiamo... Mi dice di che cosa state parlando, mi diceva. Mentre stavo... Di che cosa state discutendo. Si mette le cuffie e sente astro... Io esco un attimo, vado a prendere l'acqua per l'ospite e poi torno. Va bene, così il tasso di servilismo. Gabriella, Gabriella. Ricordati di vivere, però, ricordati di vivere. Sì, è il titolo del libro della persona che fra poco, sì, che fra poco intervisteremo. Gabriella, chiedi scusa. Ma che chiedo scusa a quella lì? Ma perché? Che ha fatto?